sopravviventi, tu che fai? Lo rivello. Poi io faccio l'asino, tu fai il... Beh, devo dire cosa fai tu. Aspetta. Volente. Ah, mai c'è questa frequenza. Tu ricordati quella degli LPD, qual è? E dopodiché mettici 600 finali. Non me la ricordo quella degli LPD. 33. 433, no? Sì, via. Oddio. Sì, però cambia le spalle. Siamo finiti, c'è. Chi è? Chi è? Unio. No, qua lenta, no, adesso probabilmente si è leggermente aperta la buca. No, ma regge bene quando è così. Dovrebbe reggere bene. Chi è che è rimasto su questo canale, a parte lo Sparviero, il Pomponio, il... chi siamo? Pochi di Gatto, io e poi... Basta, e poi non c'è nessun altro. Cosa? Stavamo contando. Non ho capito. Sei tutto impazzato, tu. Cosa hai detto? Stavo contando, non capivo che ci fosse rimasto in ruota. Ah, io mi sto preparando. Vi ascolterò dopo, ma abbiamo deciso di rimanere qua, stanno volendo delle persone, quindi no. Non so se vi ascolto o che cosa. Ma io, di scendere a Cagliari adesso ne ho davvero voglia. A Cagliari? Porta dei gattini, stai attento, è tutto ghiacciato. Stamattina ho rischiato anche io lì a Coso, sotto Nulvi. Ho preso una curva, ho visto la macchina, se ne stava andando di culo, manca accorto, ma ne era tutto ghiacciato. 7,5 metri. Infatti, bisogna quando si muove, bisogna almeno aspettare le 10, se uno non lo deve fare per forza. Io devo timbrare le 8, non è che posso stare aspettare le 10. Devo uscire presto. Devo uscire presto perché timbro adesso c'hanno. Devo andare a Cosa a timbrare. A casino che se ne vadano, cazzo, a Pedra Maiore, devo andare a timbrare tutte le mattine. Dove è Pedra Maiore? E praticamente a Santa Maria Cuginas, quella zona che c'è, che si vede dallo scorrimento veloce. C'è un impianto grandissimo verde. Quello è l'impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore, che praticamente dall'acqua a tutta l'Angrona più Santa Teresa di Gallura. Non c'ho presente. E ci riuscite direttamente? Allora, tre mattine andate a timbrare lì e poi iniziare a camminare. A camminare, a camminare, a camminare. Un cammino con i tre bombi a tutti i canti. Quanti chilometri sono a farceli? Io prima ne faccio intorno ai 150, 140, se ne faccio 220. Ho capito. Oh, ma chi siamo arrivati? Io, tu, Braudel, Pomponio e poi? Ah, boh, non lo so. Io vi stavo ascoltando, sono entrato a fare una battutina, ma sono ancora qua. C'era già nel più lungo, non so che fine ha fatto, non lo vedete rilanciato. E lì che c'è stato l'appello, lui può fare l'appello. Ma come racconta la pancetta? Che andava bene, troppo salata. Cosa salata? Sei qui, sei il mambo. Rivolgete la pressione, io sono salato. Guarda che c'è troppo nel verbo. Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Diciamo che può andare bene. Allora, un po'. Vedrai come metterò la mia di antenna. Quale è tua? Poi la... no, metto su la mantova da fuori. Te l'ho detto, fallo. Tanto quando a farlo un buco, che ho tagliato, a quattro ne avrei fatto 10. Ma cosa fa la mantova? È una di quelle radio che hai in via Rockefeller, non te la metti lì fissa, una, ne hai due, una, anziché uscire con questo, con questa scatola di tonno che c'hai lì, no, è preferibile mettere un 140, te ne fai una giù e una su, una e una, diciamo che significato ha tenerli tutte e due nello stesso posto con le radio. Detto da te, questa non l'accetto, ne hai 200 di quelle radio, ma... Dicono, vabbè, ma io non ho fatto postazioni, se avessi avuto quello di Via Pascoli sicuramente, come ho lasciato l'antenna per, mi pare, forse 5-6 mesi e poi l'ho tolta, avrei anche fatto una piccola stazione lì, ma sono qua e quindi è chiaro che le radio... le uso tutte qua, ma tu che ti sposti? Io personalmente avrei fatto un 140 giù e un 140 su, e così risolvi il problema, visto che lì ci sei di più sicuramente. Ti tieni il 140 con MC60 e di là lasci il 140 con l'MB più 5 oppure col microfono normale, ma usa bene a tutti. Io perlomeno avrei fatto così, giusto per evitare che abbi questi cambi di modulazione, questi cambi di segnale eccetera, capito? Perché no, il problema poi è lo spazio, un po' sacrificato già il punto dove ho messo questo, e tra l'altro adesso mi ritrovo ad avere un solo alimentatore, quindi non potrei neanche alimentarlo un altro, capito? Perché Pomponio lo sta fabbricando quell'alimentatore. Ah, io vado. Ti ribadisco ciò che hai detto a me, detto da te, non coincidono le cose. A te prendo il switch da 25 ampere a 59 euro, quanto è quello che ha comprato Mauro, che tra l'altro ha lasciato qua, lo sto usando io, mi vale 49 euro. 25 ampere, ci attacchi il 140, lo metti a 100 watt e tu baletta, dove stai lì a riparare, a fare intanto. Però metto il switching, anche se li ripari, non l'aveva riparato uno. Ha durato qualche mese, poi si farà dal boom di tutto, quindi a quel punto è preferibile qualità prezzo comprarlo nuovo, lo metti lì, quando si spara e ti dovrà tirare la conta. Ho vinto su eBay un'asta di un alimentatore lineare, se non mi ricordo qual è la marca, da 35 ampere. 35 ampere me lo devono spedire il giorno di Santo Stefano, dalla Sicilia. A tu! Ah. Grazie, a casa tua? Negativo. 9.40 stai arrivando. Cioè quanto Fabrizio? No, Fabrizio è 9.40. Dovevo dire che lo schiacciavo. Vabbè, non sei a casa tua, sempre a casa tua, sì, non sei vicino a Luca. Ragazzi. 9.30 qua, il segnale è ottimo, non ci sono problemi. Alzare ancora, Cosa? Alzare l'antenna qua, cioè, ho deciso di mettere la vita a Fabrizio, è sacrificata qua perché è sotto il torino dell'ascensore. Il segnale è buono, la via che fare è oltre 40 anche qua, però da lì rispetto a come di prima che 9.20 sei 9.30 adesso, è un po' la radio impastata, ma il segnale è ottimo, abbastanza comprensibile la radio, per carità, però io avrei preferito sentirti sempre col K. Io non ne ho tanto di alimentatore, sono volentieri, no, non ci sono problemi. Adesso tra l'altro sono costretto a comprarne un altro anche io per alimentare tutti i baracchini 220, perché hai visto cosa fanno. Evidentemente i trasformatori sono un po' esauriti e quindi è preferibile alimentarli a 12 volt anziché a 220, capito? Bene signore, io vi devo lasciare un attimino e ci risentiamo se prendo dalla strada, dai. Perché non lasci lo zingaro per prendere dalla strada? Però si vedano, sto scendendo a Charlie Alpha e non ti porto neanche il regalo di Natale. Oh zingaro! Senza Charlie Alpha che sciura, mamma mia, non ti invidio qua. Idem Claudio. Non mi invidio neanche io. Vabbè, io neanche, guarda, la ragazza che la do, non è che se mi avevo pagato, me lo sono detto, ci vieni a Cagliari a fare compagnia. Oh, manca a pagarmi d'oro. Questa è una cosa allucinante, andare a Cagliari. Oh, magari ci viaggia meglio che di giorno, che non trovo il traffico. Sì, ma la chiamando via, sì. Troverai nebbia a ruota di collo. Quello con la macchina, sì, con la terra, con la macchina di collo, problema, con la cappotta abbassata qua i grode. No, se non è che ho problemi di pettinarmi. Pettina, cammaretto che va, guarda. La base ci ghiaccia. Stai attento, Antone. Stai attento, che ci sono 5 gradi a Sassari. Quindi mi posso immaginare cosa c'è a Campeda. Toccati. Non vi preoccupate. Voi il trattore che vai con la mia qua. Ti do il fiorino aziendale. Sai quella lì quanto piace bene. Ti attacchi il riscaldamento, bello, è truba che attacco. Ciammi. Mi pare 4-5 quintali sopra che c'è un motore, c'è l'assetto. Guarda, che più passa il tempo e più la strada si ghiaccia. Io dai, davvero, non scherzare, tu vai piano, stai attento, occhi a petti. Pagato, a dopo. Sei torna dalla macchina, occhi a petti e culo stretto. Tira con la mano in mezzo alle balle, per questo. Perché a tagliare ti faccio meno, ma dimmi tu, gatto. Mamma mia, io quando esco la mattina, cazzo, mi viene la disperazione. D'inverno mi viene la disperazione, d'estate siamo così sereno e tranquillo, ma d'inverno, per le storie che faccio io, a iniziare da Ugiro, Ugiro non vi è quella più, tante volte faccio dopo aghe, ma sempre la mattina si goce, tutto ghiacciato, tutto ghiacciato. Vabbè, che cosa vuoi fare? Avete paura, bobo? Io che viaggio, io che viaggio. Anche qua a Cagliari sta scendendo, no? A Urbia. No, a Urbia oggi andiamo. Perché Urbia già è strada, la vera paura. La vera paura a quelli mezzi ciechi, ma lui già vede che è in alto. Quella già fa bene la strada. Stava brutta e questo va andare a Cagliari così. Che cazzo. Ho pulito me la strada di Urbia con quella di che va a Cagliari. Hai tranquilla anche quella che va a Cagliari, anche su Cagliari tranquilla a quest'ora, ma dopo le tre, dai, dopo le tre comincia a cagare il cacchio. Vabbè, considera che sta partendo adesso, poi a quando a muoversi ci vuole sempre un'ora, quindi fa che parta le 9:30, arrivare a Cagliari sono le 11:30, con quel catamarano che c'è. A rientrare sono le 2 di notte, quindi è per quello che dovete stare attento. E ho un bianco per me che mangio una cosa e poi riprendo. Ciao Fabrizio, io sto aspettando gente. 8:30, mia novetta. Poi vanno uscire noi invece non ci giovini e loro. Va bene lo stesso, non c'è problema. Mi ci mangiano le palle dell'albero di Natale. Ciao Fabri, buon proseguo. Comunque buonasera a tutta la ruota. Ma non sarà la colpa tua. Beh, ne ho 16. Che se ne frega, sono le tue, no? Sono le mie, no? Stavo girando. Così è. Quindi già va bene, già va bene. Uia. Uia. Per carità. Mi tocca domani. Il 25 sono libero. E quindi non ci sono. Sono fuori, il 26 sono reperibile e poi il 27 si riunisce nuovamente fino al 31. Poi tanto io per 2 minuti qua, e vabbè, non ti lamentare, io il 25 lavoro, quindi. E io il 26 Fabri. Altre parole non posso mai essere una parte, capito? Perché ho turno e reperibilità tutta assieme, mi hanno rotto le balle, ma me le hanno rotte davvero, cazzo. 6 malattie se ne sono messi perché non gli hanno dato le ferie. Ma Andrea li assassini, cazzo. E vabbè. Va bene, non lamentiamoci. Mi lamento io. C'ho quel cracco, Fabri. C'ho quel cracco, non l'avevo subito. Sono tutta dolore, troppo freddo, sono sempre in giro, mezzo all'umidità, mezzo alle cose. No? Ho bisogno un po' di rilassarmi. Adesso finite queste feste o me le danno o me le prendo. Ma non te lo dice di nuovo incidente, no cazzo, porca miseria cazzo. Cosa da me? Ti dice di nuovo incidente qua cazzo, lampeggianti blu. E dopo no. Oh, vediamo come sbucco qua. Qua via d'Italia e rallentamenti, minca mia me cazzo. Via d'Italia al solito posto, ma te lo sai che l'altro giorno per poco, guarda, stavo scendendo da, sono uscito dalle gallerie, tranquillo, era 80, ho tirato, stavo scendendo giù al Fenica qui di giro dove c'è la motorizzazione, scommiamo la mano, già lo so, che praticamente hanno fatto un'altra cagata delle solite, no? Hanno allargato la strada e ti trovi quelli che arrivano da Cagliari che non la conosco, ti trovi il cartello davanti, anziché andare a Porto Torese devi girare per Alghero. Cazzo, c'avevo questo al fianco, me lo guardavo, sorpassava, cazzo, se non vai si sbatte al cartello giallo faccio finta di mangiare che non ho nemmeno fame, a pranzo sono ancora pieno, eh. Ehi, ehi, già sono qua, io non c'è problema, non ti preoccupare. Tanto te l'ho detto, sto aspettando gente. Va bene, non ci sono problemi. Almeno nel cielo non c'è questo incidente. Lumi, guarda se si scende a spingere. Attenzione, frequenza, la città del Caraggio che fa chiamata. Vrico. Fiorini rossi ne vedo tantissimi, però se magari non butti. Di solito al mattino, adesso che mi hai detto diciamo la scritta sullo sportello, se non sbaglio, l'ultimo modello del fiorino lì della coso, ne vedo più o meno lì all'incrocio che esce lì qua dall'uscita dopo Liglioni, l'incrocio che c'è per come si chiama dopo l'incrocio dei Liglioni, quello lì vedo sempre un fiorino vostro che esce da quelle zone lì. Ci sono sollevamenti lì, sollevamento di Porto Torres e poi c'è il torrino della Raffaele Turi, sono i colleghi, e poi l'altro lo trovi a quell'ora all'incrocio di Mabau la mattina, tutte le mattine alle 7:15 lo trovi all'incrocio di Mabau, poi l'altro lo trovi in Piazza Colombo, che fa Piazza Colombo l'Istituto Nautico, capito? Tutte le mattine sono quelli, poi l'altro lo trovi al muro, se io che sto transitando per andare a Nufi. Ne ho capito. Va bene. Chi è che c'era? Non c'è nessun altro, no? No, c'è Domenico Zanarolvia. E gli altri sono tutti in quel rix, si stavano preparando per la cena. Io adesso fra poco stacco lo stesso. Andiamo a cenare, capito? E poi a nanna anche domani mattina. La sveglia presto. Sì, capai. Non sei il solo. Speriamo che non sia ghiaccio domani mattina, ma ho paura che sia ghiaccio, perché ha messo, visto il tempo, temperature basse. Quindi ci sarà, perché devo scendere di nuovo a Olbia. E ho paura che ci sia di nuovo strada popalorda, sale non ne buttano, a quanto pare il tuo sale costa. Lascia perdere, ho viziato anche da poco con quelli là, ma sanno lì. A volte si cosa dico, siamo viti, ma fa il sale perché non lo buttate nella litoranea, non si può camminare a quel passo lì, cioè, dice che non ne hanno fatto. Ho capito. Lo so, è un casino. Adesso cosa gli costa queste giornate di quando ghiaccia? Buttare un po' di sale, cazzo, invece niente. No, quella strada adesso da Saccargia, a partire da Saccargia, tutta la saltona, no? Arrivare fino allo scorrimento veloce, la strada quella lì è un po' balorda. Cioè, balorda, devi andare piano, devi stare all'occhio. Hai sentito adesso, gli ultimi giorni, quella coppia di cinesi stesso? Lì non è che ti devi azzardare a fare sorpassi del cavolo, no? No, sono i cinesi, non è sorpassato, è il camion che ha sbandato. È il camion di pinna che ha invaso la corsia, ha scivolato proprio per il ghiaccio. Gli è andata addosso, loro erano la sua corsia. Capito, Sandro? Ah, non capisco, ma che fai a casa? Cazzo, tiri dritto e fai la salita di Covrangianos. È molto più libera, molto più tranquilla. Non c'è la ghiaccio lì. Io sto facendo quella. Non entra a Saccaggia. E poi tagli dalla centrale dell'Enel, scusa. Sì, no. A volte faccio anche quella lì di... Non la faccio la Saccaggia, delle volte salgo su e passo lì di fronte alla centrale dell'Enel e lì sopra, diciamo che tutto quel salitone della Saccaggia te lo elimini, diciamo, te lo elimini, in questi tempi, questi giorni bisogna stare all'occhio, deve andare piano. C'è poco da fare in gaga, se non arrivi 5 minuti prima, arrivi 10 minuti dopo, però bisogna stare all'occhio. E occhio aperti ci voglio, vediamo dove ero fatto domenica. Domenica dove sei? Ahi, passato fuori. Ti ascolto, vai, prima che ti perdo, ho fatto la buona. al limite ci sentiamo per telefono per farti gli auguri a me, se no vediamo, ci vediamo il giorno di Natale 25. Io sono a pranzo domani, sono a Porto Torres, il 25 sono a Sassari da mio cognato, quindi già sono in zona, non c'è problema, ci sentiamo e ci facciamo gli auguri da me. Lo sapevo, c'erano 5 gradi, già si vede la temperatura di Sassari, è quella oramai, sono abituato, sono uscito poco fa in Poggioli, ho visto che era abbastanza secca, quindi più o meno quella, 4-5 gradi. Ciao da me, un abbraccio grande, fatela buona e occhio alla penna, vai, buon rientro e buon tutto, avanti Sandro. Ok, dai, salutoni Domenico, se riesci ancora a tirarmi fuori, salutoni e tutte le prossime, ok. Ok, io volevo farti sentire una questioncina, per fartela sentire, aspetta un attimino, che l'ho acceso da poco, dammi due secondi. Intanto radio come questa non ne hai tu, è inutile mi fai ascoltare a me, questa è micidiale. Quello che sta provando qua, non so se sentiamo, l'altro è il simile del Magno, ma cazzo è strepitoso, non è mai sentito la voce bella, veramente forte, corposa, bella, non disperde, bella, bella, compatta, veramente una bella radio. L'eco giusto, adesso vediamo cosa sta attaccando. Hai guardato, non hai sentito in macchina? No, ancora non l'ho sentito. Vabbè, sino alle 10, 10 un quarto già non parte tanto. Quello senza ombra di dubbio. Allora, 10 minuti per spegnere il baracchino, un quarto d'ora per salutare, 7 minuti per mettere il giubbotto, 15 minuti per scendere le scale, aggiungici altri un quarto d'ora per trovare la macchina, mettere in moto, ciclo e casco, un bam bam, un'ora e mezza. Il consulente che parte col catamarano. Aspetta, secondo me, ma tu ci credi che ti scende a Cagliari? Secondo me ci rinuncia. Ma per fare quella macchina è chiaro, sicuramente non ci va con quella. Non credo che vada con quella lì. E beh, Sandro. Fabri, vuoi fare la diera da tuo socio, ritirarsi il calendario? c'è un telemone che ha fatto il calendario, mi è venuto. No, non l'ho visto, adesso me lo guardo. No. Molto bello, c'è un telemone con i nomi. Bellino, una cosa semplice, però bellino. Oh, io il numero non li leggo, leggo. Leggo 2012, poi manco un numero di giù. E uno dei piccoli li hanno fatti. È perché è un cartoncino, capite? Un'unica pagina, un cartoncino, con tutte le foto delle novelle, e poi sotto c'è il calendario 2012, da gennaio fino a dicembre. Capite? Ho capito, adesso me lo guardo. Tanto le cose semplici sono più belline, quando è troppo girovagante, a me non piacciono, quelle cose semplici, ma quando sono sempre con quel gruppo con le pitture. Sì, sono per le novelle, gruppo di Tonino Afonso. C'è scritto gruppo novelle body art. È molto bello, un bel calendario, una bella. Sono tutte le foto con i nomi, le varie proposte di pittura. Ho capito. Insomma, guardo. È una cosa carina, una cosa nuova, è particolare. Gappa. Sami, aiuto. Facci sognare che devo andare a mangiare. Come stiamo provando, eh? Non so, ho detto della famiglia della IES, non so che orario sia. Ecco, come mi dici lo di questo 9.40? Ultima macchina, ma è con l'andare del tempo sempre difetto delle solite radio Kenwood. Vai c'è un digitale qua al petto del 9.40. Dal 9.40 trovi l'FT 950 come quello che c'ho io, che è completamente un'altra macchina, tutta digitale con DSP, eccezionale, ma te lo dico molto molto sinceramente, eccezionale, la trovi allo stesso prezzo del 9.40, capito? Ma è completamente un altro pianeta, vai tranquillo. Non è bigliano per 40, lasciare perdere le macchine di vecchia generazione analogiche. Per fare HF è meglio avere un digitale. Per giocare qua in 10 metri e in 11 metri va bene anche un analogico, ma quando sei in 20, in 40, in 80 devi avere il digitale, perché c'è tanto di quel QRM, quello come stringi poco poco di banda, te ne lecchi le dita. Basta un filtro a 6 kHz, lo sai come ti scende il QRM, non senti più niente. Con l'analogico non riesci a fare determinate cose. La c'è ragione. J-Guy, io l'ho visto, carino, però la c'è ragione. Lo dico perché l'ho avuto 9.40. Ho avuto tutta la linea completa io. C'ho anche le foto nei vari cosci, quadretti. È una bella macchina, ti ripeto, ma io ce l'avevo, non ero ancora radioamatore, quindi giocavo un po' in 11, 10 metri eccetera, ma una volta che poi vuoi puntare al massimo devi avere il digitale, cioè le macchine digitali in HF a livello amatoriale sono un'altra cosa, devi avere per forza una macchina, perché diversamente non riesci a lavorare, non hai DSP, non hai niente, quindi quel RM lì è fortissimo, è alto, poi segnali bassi, quando c'è qualcuno molto lontano devi cercare di recuperarlo, e se non stringi senti solo fruscio e basta, non senti niente, capito? Te lo dico per quello. Mentre invece per i 10 metri, anche in verticale 10 e 11, puoi fare tranquillamente con un analogico anche un 140, va bene, ma quando parliamo di 40 metri, 20 metri, 80 metri, ci vuole la radio digitale, se no non senti niente. Oh, Claudio. Ok, dai, vabbè. No, devo fare tutta un'altra passata. fatto una passata come si deve, dai. Comunque ce l'hai davanti. Ce l'ho qua davanti? Ce l'hai lì davanti, esatto. Su in alto ce l'hai, bello, bello, bello. Ma il 959 l'hai preso, no? Si conferma. Passa. Se c'è il 950 che non vuoi usare in AM, ti do un input come ho fatto io, adesso no, con calma poi te lo faccio sentire. Se hai l'MD100, ti dicono per la posizione in cui devi rimettere dei tastini di sotto e tu sei a posto. E vai alla grande. È una grande macchina, hai fatto bene qua. Sono contento se te l'hai ripresa. Una grandissima macchina, la migliore in assoluto per la mia esperienza fatta in HF che io abbia mai avuto. Avevo 920 prima di quella, ma no, niente a che fare con 950. È una macchina eccezionale. No, qualità petto, non penso che ci siano macchine che possano estrarre appresso. Ehi capa, no, ma io poc'anzi stavo andando con la con 908 e purtroppo l'MD100 non ce l'ho, quello lì. Vabbè, comunque adesso vediamo, anche col 908 adesso si tratta di fare tutto un settaggio, tu già lo sai come, e vediamo, vai. E con 908 va bene, non ti preoccupare. Ci si sposta di canale un attimino, ci andiamo in un canale alfa e non rompiamo le palle a nessuno, ti regalo bene l'equalizzatore 908 con 950 e una schioppettata, va molto molto bene, ma ti ripeto, Fabri, se devi prendere una radio, lo dico con molta sincerità, lasciati lì tutto, qualità prezzo. Con 1000 euro trovi la radio nuova, che è l'FT950 di ultima generazione, ed è una cosa trepitosa, ma non per giocare qua, perché qua già ne abbiamo baracchini a giocare. Quando inizi a lavorare, ma solo ascoltando in HF, te ne lecchi le dita. Allora io quando accendo quello sono rilassato, mi pongo a ascoltare in 40, in 20, in 15, c'hai la persona che sembra che ce l'hai seduta qua a fianco, capito? Spengo tutto e lascio solo quella accesa, perché è una cosa strepitosa da sentire, veramente, è una ricezione favolosa. Già lo so. Ancora! Perché i filtri sono importantissimi, eppure fa tutto il processore, quindi non hai bisogno di mille cose. Ma quello ce l'hanno automatico i filtri, non devi stare lì a impostare niente. Quello tu man mano che ti sposti, lì in automatico si prende il filtro che le serve per banda e poi ti accorda automaticamente la ricezione in automatico, quindi ti sto dicendo è un pianeta, è una cosa molto bella. Ribadisco che qualità prezzo, penso che non ci siano digitali che possano batterlo, qualità prezzo, perché è una radio che non costa molto, però è molto bella sia esteticamente che per l'uso che ha in dotazione, capito? È molto bella, c'è tutto, non le manca niente, veramente è bella. E poi c'è watt a uffa, in banda laterale, ha un picco di modulazione oltre i 150 watt, quindi non hai problemi di niente. C'ha la doppia antenna, capito? C'ha il commutatore d'antenna incorporato, quindi due antenne che puoi commutare elettronicamente dalla radio stessa, eh? No, non è che ci siano problemi, capito? Quindi puoi mettere il dipolo o una direttiva, oppure l'antenna dei 6 metri, il dipolo o una direttiva, puoi fare quello che vuoi. È strepitosa come radio. Strepitosa, io l'ho messa vicino all'850. L'850 non c'ha neanche, e ti dico che l'850 è molto più caro era molto più caro rispetto a questa, però non ha niente proprio a che vedere con il 950 della Yaesu, proprio niente, neanche in ricezione, neanche in trasmissione, nulla, zero completamente. Nuova generazione, ovviamente, è chiaro. anche tutti i GT digitali, ma nuova generazione è un'altra cosa. Adesso mi dico, vabbè, cioè un po' io apro lo spazio per me, come riesco, se vanno in porto un paio di cose che faccio quello che devo fare, mi creo lo spazio, allora vedi, quando sarà, se tutto va bene, allora farò anch'io la mia, il mio spazio giusto, eh. Io poi piano piano già si fanno le cose, non c'è problema. Vabbè signori, dai, io vado a mangiare, ho fatta gente, ci sentiamo se coincide più tardi, altrimenti vi auguro a tutti la buonanotte. Ciao Sandy, sono contento, alla grande, mi hai dato una bella notizia. Tieni da lì, poi ci facciamo tutte le misurazioni, le comparazioni, visto che ce l'ho davanti, ti posso dare più assistenza, sia per il 908 che ce l'abbiamo uguale, sia per la radio che ce l'abbiamo uguale. Così non abbiamo problemi. Ti do quell'input che ho scoperto io sulla manovra della M e vedrai che sicuramente hai una bellissima radio. Ti saluto anche a te, saluto quelli che sono ascolto da parte mia QRT, se coincidi a dopo, altrimenti buonanotte a tutti. Ok, claro, ti fate il volete. Ok, claro, non carica batterie e poi al limite fai una chiamata, vediamo un pochettino. Se i bambini permettono, sono qua. Avanti, prego. Ehi, buonasera a tutti. Gianni Doppio Rumo. Ciao Gianni, ben sentito. Anche a te. Oggi mi avete dimenticato, stavo salendo da rapporto Torres, ha detto non me la abbassano in due, la festa l'ha rifatta a casa, non ce la facciamo manco a salutare, chiudo, se mi avete chiamato ho fatto maleducato, ho chiuso perché avevo fatto andare in bagno, quindi ho dovuto chiudere. No, ma in effetti da 10 anni chiamato, l'abbiamo abbandonato, tra una cosa e l'altra ti hanno lasciato dietro. Ti ho chiamato io già, poi non hai risposto e quindi ho pensato che già dovevo attaccarsi. Ciao, buonasera, buon tutto e se coincide ci sentiamo dopo le 13 anche Sandro a Polo Torres. Ciao qua. Claudia. Dimmi ciao. Ok, allora aspetta un attimino, eh. Adesso sono forse ormai che normale. Ormai che normale. Come ascolti? Un po' nasino, quanto ce l'hai il mic? Quanto ce l'ho? Sto cercando di abbassare, ce n'è appena uno. No, non devi abbassare niente. Mettilo allora, 1, 2, 3, 4, 5, alla quinta tacchetta proprio devi andare in angolazione dove c'è scritto mic, in angolazione con la M, dove c'è scritto mic gain. Ok, allora aspetta un attimino, così sono a 3, in mezzo, a 4, va bene? A 5, lascialo così. Il processore inserito ce l'hai? È 1, si conferma, processore inserito. Sto facendo sentire il male. Ok, ecco qua. Il processore, addio. Chi te l'ha fatto? Fatta il processore e mettilo a mezzogiorno al Michigi. Fatta il processore, Michigi a mezzogiorno. E bisogna fare perché è sempre molto compressa, no? Praticamente c'hai tutti i toni bassi, mancano gli alti. Bisogna entrare nel menu e fare il menu della radio dove c'è scritto AM e metterlo a più anziché meno e ti dà le tonalità sull'equalizzatore però. AM equalizzatore, devi andare sull'equalizzatore, dovresti andare a più 500. Allora aspetta un attimino. Adesso devi togliere quella radio che hai acceso, che sta fischiando, per me va benissimo. In effetti c'hai ragione. Com'è? Me va bene, già compressa qua, non molto, ma un tantino ce l'ha di compressione. Se invece abbassate la appena appena di compressione ancora è più chiara la radio. Ok, ok. Allora aspetta un attimino. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po', così dovrebbe andare bene. K, così è di uso, vero K? Perfetta, perfetta. Lascia restare quel parametro lì sull'equalizzatore e non lo blocca già. Fabrizio. Pochi di gatti. Si deve essere lontano quel bambino. Già. Comunque adesso va bene, dai, abbiamo tolto proprio tutta la compressione che c'era, che te la vedeva a cuffia un po'. E adesso si è liberata proprio la radio di Sciariscia. Sì, ma Claudio, ma lo sai cosa li sto mettendo? MC60. Fuzzi in uso. E non si intende come Claudio, ma non ce n'è per nessuno, no? Non ce n'è per nessuno. Credetemi veramente, me lo dico per presunzione, perché di microfoni qua ce n'è tutta la serie. Di Aesio, che vuoi, come però, il 60, se tu c'hai l'adattatore, lo metti su qualsiasi tipo di microfono e contemporaneamente ti fa la radio normale, senza neanche lavorare molto sul digitale. È proprio lui stesso che cerca di aggiustare quel non so che manca, no? Poi allora non si sbagliava perché gli ho detto guarda che la MT100 non ce l'ho, c'ho l'85 e il 60, dice allora va bene. E in effetti io cosa ho fatto? Poc'anzi l'ho fatto al mare, ho messo l'adattatore al 60 e adesso sono col 60. Vai alla grande, e vai alla grande. Io sembra che azzecchi, che sia un mago, però il mio vecchio purtroppo è così, no? Non c'entra a fare. Il 60, anche se te lo metti per terra, io lo conosco, non ve ne fa nessuno. Il microfono eccezionale come quello, guarda, non ce n'è. 3K, va bene, va bene. Ok, le prendi già. No, è così. Anche l'SM20 è bello con il microfono, però l'MC60 non so che niente. Anche io la vedo così come Claudio. Io ce l'ho tutte e due, l'SM20 e tutte e tre. Io come Aesio e Kenwood, però ogni volta che io mi metto le cuffie e mi ascolto con l'SM20, sì, è una bellissima radio, molto alta come tonalità, però i medio bassi che dà l'MC60 non ce n'è. Io il microfono che a me si adeguano tutti e posso usarli tutti, non è che cambia molto per la mia modulazione, però per modulazione come Sandro, che tende ad avere una tonalità molto acuta, con l'MC60 smorza e quindi le dà questa tonalità medio alta molto bella, capite? Va bene signori, adesso la nave stavo chiudendo a poco fa, vi auguro buon proseguo, se coincide ci sentiamo dopo. Ciao anche a Fabrizio, in cui Rick sicuramente si è allontanato, se lei riprendi tu, fai girare per gli anni, vi ascolto e poi mi allontano, eh. Non spengo ma mi devo allontanare. Ok, dai, anche io me ne voglio sentare, vi hanno già chiamato per fare carica. Dai signori, se coincide a più tardi, dai, anche io vado a caricare. Riprendi già. Vi saluto e vi auguro una buona carica batterie. Io l'ho già fatta, sto solo digerendo. Cava cava, ci sentiamo, scusate se avete sentito la voce, ma era il bambino che stava gridando. Un po' prendiamo, buona cena a tutti, ci sentiamo dopo allora. Pagava. Ok, io rimango qua, l'ascolto e accendo il computer, così quando chiama sono qua. Antonio, qua. Per calmisina, come fai a sapere che sono io? Ma sai che io sono una vecchia volta. Buono, no, io sto finendo qua di saldare un capo e ti avrei chiamato, sto collegando un wattmeter, vado un apparecchio per misurare le stazioni aria. Se mi dai 10 minuti esagerando, mi sto attaccando, così lo provo. Antonio, ne ho visto uno su telecomunicazioni, Rosman Provazzo, un altro accordatore, si chiama la KP1000, io lo conosco perché ce l'ho già. È veramente bello. Ascolta, è molto viene. Cos'è, della ZG? 95 euro, c'ha gli strumenti grandi, tutto quanto, sino a 1000 watt. Molto bello, io ce l'ho, gli ho riverniciato il coperchio l'altro giorno e ho sbagliato, l'ho presa a luce invece che opacca la vernice, se non mi piace più. E si tocca le figare. No, io invece ho fatto l'Alan 44, l'ho proprio rifatto a nuovo e completamente gli ho riverniciato la cassa di metallo, no? Sotto e sopra, nero opaco, ed è uscito, guarda, una meraviglia. Poi gli ho ricolorato la mascherina in plastica col suo colore, che è una specie di grigio metallizzato, e poi il frontalino l'ho rivestito con una plastica adesiva disegnata come le mimetiche militari e gliel'ho posizionata, guarda, perfetto. Te l'ho personalizzato. Guarda, sì, alla fine si applica un po', la mascherina era consumata, vecchia, ce l'ho, il mio primo baracchino era 44, c'ha 18 anni, già ne ha fatto di battaglia questo quando al tempo l'ho usato. E me l'ho revisionato, lì adesso attacco il capo a lui e poi lo provo. Cosa mi stai dicendo? Ti ho ordinato, Antonio? Non ho ordinato, no. Mi sono trovato la mamma stasera in soffitta, questo apparecchietto là che si misura quanti watt stai uscendo le stazionarie, la ZG modello 103, non so se lo conosci, SWR wattmeter, comunque si misura le stazionarie infatti in cui stai uscendo, le arriva fino massimo ti segna 150 watt. E lo stavo collegando, no, a tutto l'impianto che ho per utilizzarlo, era sempre lì puntato. È normale, però se hai un po' di stazionale magari con la piugge e cosa, non c'è il regolatore delle stazionali, è quello che serve. Se hai praticamente il regolatore di stazionali, quando tu hai per dire due stazionali in antenna, se le regola in entrata, non in antenna ma in entrata per le regola, qui non ti fa bruciare l'apparecchio, capito? Sì, quello già è vero, ma mi guarda, stasera verso le 6 l'ho provato a collegare e sinceramente mi sta indicando così, quasi uno, si rimuove appena l'indicatore. Paga, e anche a me così, se lo si attacco mi da 1,3. Te lo stacchi ti dà 1,3? No, se attacco a scarta mi da 1,3. E beh, siamo lì nella norma, senza pericolo, quando attacchi quella roba a 1,3. Fino a 2,5, sì, sì, nella norma, ma diciamo, non sei sul rosso, ecco. E quello sì, infatti qui, sì, esatto, hai ragione, adesso lo sto guardando bene, già la scala, no, da 0 fino a 150, su... Vabbè, infatti 3, 5, 10, 20, 30, 20, 50, 100, sotto 1,5, 2, poi c'è il 3, dal 3 in giù è tutto rosso. Quella è la scala che non deve mai arrivare, se no incorto l'antenna. Sino all'1,3, 1,4 va bene, 1,5 anche, ma di più no. Ah, è perfetto, guarda, sto quasi per ultimare la saldatura, mi dai un secondino e poi ti richiamo. Yeah. Fai, Antonio, non c'è problema, però sappi, che se fischi ti riconosco. Ma sinceramente non so da che cosa, comunque. Antonio, diciamo che quando uno è vecchio della frequenza riesce a riconoscere da tante cose. Anche dalla tipica del fischio ti posso riconoscere. Ma devi tenere presente che io sto sempre utilizzando il microfono da tavolo, l'MD-4, e invece con questo sto usando adesso, in questo momento, il microfono originale della Midland, sicuramente già cambia un po' la modulazione. E dunque non so come è fatta a accorgersene anche di questo caso. Ma ne sono accorto dalla tipica del fischio, non mi sono sbagliato. Comunque se il microfono originale sta facendo benissimo, c'è anche un altro microfono amplificato della Lafayette che costa una cazzata, mi pare che venga a 22 euro con la sua spedizione, che ha la batteria da 1,5 si mette, e non da quella da 9, da 1,5 e sono microfoni che vanno molto molto bene. No, la verità questo non lo conosco come modello, però stavo guardando nel catalogo quel MD, non mi ricordo che modello è, devo guardare bene, da palmo, amplificato anche quello con batteria, tutto ti ha la possibilità di campare la voce da donna a uomo, viceversa, da robot e da tante altre cose. Non so se lo conosci, rimane, beh, esteticamente non è così, così bello, rimane grigio con il regolatore, diciamo, in alto del microfono, non è, esteticamente non mi piace, però c'ha molte particolarità, se lo conosci quel modello di microfono. Sì, c'è anche quello che fa la voce sessuale, poi c'è, ci sono anche due o tre voci che fa, la Pantera Rosa, la musica della Pantera Rosa e un'altra. Sì, sì, ce ne sono tanti tipi. Buonasera! Ciao Alessandra, hai capito Antonio? Continua a fare lavoro, Alessandra. Buonasera signore, buonasera. Allora, io ho appena fatto carica e insomma la sto fumando. Alessandra, forse per ti può interessare, c'è una colonnina Kenwood che costa una cazzata su internet, se vai la vedi su eBay. Colonnina, no, c'ho già quella, non è della Kenwood però, quella che ho diciamo è della Yaesu, la ST. In più c'è Robert accordatore Wattmaker con gli strumenti grandi della ZG, HP1000, te lo ricordi? HP1000 della ZG? Eia. No, già, per esperienza ZG lascia perdere. Io ce l'ho qua la HP1000, accorda bene, fa tutto tranquillamente. Io ce l'ho, ma non un anno, ce l'ho minimo una quindicina d'anni questo qua, funziona sempre. Allora guarda, dalla ZG c'ho l'HP 2002, c'ho l'HP 2002, quello che arriva fino a 1 kW, poi c'ho il KW520 come strumenti, poi basta. Che questo arriva a 1000 watt, questo arriva a 1000, c'ha la scala da 10, da 100 e da 1000. 3K, ma questi strumenti della ZG, forse perché non ho avuto una brutta esperienza io, non lo so, però non è che creano molto affidamento, Sono commerciali come tanti altri, come Lafayette, come altri che ci sono in commercio, sono commerciali, però a me mi sono sempre andati bene, pur forse che sia fortunato io. L'alimentatore che abbiamo in sede, non so quanti anni ce l'abbiamo, sempre della ZG abbiamo un alimentatore che poi è passato a Porto Torres, mi pare quell'alimentatore lì, ha acceso di Porto Torres, e ce l'abbiamo una vita, e andava sempre bene. Dipende anche dalla fortuna a volte. Esatto. Dipende moltissimo dalla partita. Dalla partita diciamo che... Allora, aspetta un attimino, che sono un attimino in cuffia. Dipende sempre dalla partita. Come strumenti, come alimentatore, come tutto. Ok. sono Antonello Ossilandia, a te l'antenna. Signora, buonasera. No, niente, io mi devi scusare qualche minutino che sto facendo alcune saldature, poi collego tutte e proviamo, così ci facciamo delle prove. Allora, comunque non è che siamo professionali come apparecchi, sono molto commerciali, quello sì. Già lo so. Poi dipende, se uno vuole avere una strumentazione professionale, una strumentazione affidabile, allora sappiamo benissimo che deve spendere un pochettino, ma diciamo nel nostro piccolo passatempo, diciamo, non mi sembra il caso. Infatti, con 95 euro quella lì la compri. Quale? Della Vettaggi, lo smetto fatto per la corretta, 95 euro più 7 euro di spedizione. Ho capito, sì. Ma l'accordatore, diciamo, ce l'ha l'accordatore esterno, diciamo, volendo, quello della Shea, come si chiama, quell'americano, cosa? Quello ce l'ho lo stesso, quello che fa, diciamo, un po' tutte le bande, però diciamo non è che lo utilizzo, non lo utilizzo quasi niente, l'avevo preso inizialmente e poi era accantonato da una parte, ma quando diciamo c'è un apparato dove c'è l'accordatore inserito, ferratura. Beh, quello sì. No, a me piace, è uno strumento che abbia tutto, uno strumento completo che abbia rosso, e trovato il raccordatore, mi va benissimo. Sì, dovrebbe andare così, ma ci sono quegli strumenti, diciamo quelli automatici, quelli in automatico, che ti danno, diciamo, l'accordatore in automatico, poi ti danno riguardo, diciamo, il rosso, addirittura ti danno anche il modulometro, insomma. Già ci sono, però logicamente, diciamo, non è che costano, perché costano, però diciamo, ripeto, per l'utilizzo diciamo che ne facciamo noi, diciamo, uno proprio o per spizio o perché diciamo è talmente appassionato per la strumentazione, va bene, ma se no. Ebbene, no, a tutti piace vedere, ma a me sono Massimiliano, una stazione di un americano che se la vedi sembra una stazione spaziale. Dio Maria, una camera enorme e tutta piena di apparati. Già lo so, ma guarda, io ti posso dire una cosa già, io se torno indietro, da quando ho cominciato a modulare nella 27 a oggi, dovessi un attimino così mi rifarrato a fare un po' dei conti, i soldi guai, per carità, guai. Lo dici? Io ho avuto apparecchi costosissimi, li ho rivenduti, ho ripreso altri. Tutte apparecchiature molto costose. Lo so, però poi a fine dei conti siamo sempre lì, già. Gira e rigira siamo lì. Lo so, ci ricaschi sempre, perché poi questo per migliorare, quella lì è la, diciamo, la nostra soddisfazione di avere sempre roba più bella, sempre più, diciamo, più completa, più all'avanguardia, ecco, migliorarsi sempre, non avere sempre cose retrograde, ecco, avere cose nuove, quella è la nostra soddisfazione, e la passione è quella. Si conferma, ma in effetti diciamo che la passione è proprio che ti porta diciamo a tutto ciò, capito? Però devi avere anche un posto un po' adeguato, quando cominci però ad essere un po' limitato. disagiato, un po' qua, un po' là. Allora arrivato a un certo punto ti dà anche un po' di stizza, capite? Ma è meglio che non ci siamo molto di posto, se no comincia a spendere non la finisci più. Quando c'è molto posto, se vedi questo americano cosa c'ha di roba, che c'ha i piani proprio, tutti gli strumenti, lui, non se ne comprende nulla di tanta roba là. Già le ho viste, così per curiosità. Per curiosità mi prova a entrare su YouTube e prova a digitare, diciamo, stazioni radio amatoriali. Guarda, da far paura, da far paura. Addirittura ho visto questo collezionista, un collezionista, non è neanche italiano, non mi ricordo neanche di dove sia. Diciamo un magazzino di tutte radio antiche, radio militari, vecchie radio, ma un magazzino, io ti posso dire un magazzino. Adesso, cioè, farsi un'idea di questa persona, non so che cosa potrebbe essere, se potrebbe essere passione accanita, oppure fanatismo, oppure che cosa, non lo so. Perché poi al fin dei conti, diciamo, hai sì una passione, perché è sempre passione, per carità, però tu quando ti vedi tutta questa roba mucchiata che ce l'hai lì selezionata sugli scaffali, una cosa diversa dagli altri, e ne hai 100, ne hai 500, ne hai 1000, però ce li hai bloccate lì, sì. Può essere passione quanto vuoi, però arrivato a un certo punto non lo so, bro. Non le accendi, come fai? Vanno a finire che si guasta. Lo so. È un museo, diventa un museo storico. Un museo storico, sì, che poi magari, diciamo, un valore. Che valore potrebbero avere non lo so, perché adesso la linea più costosa al momento di mercato sulle risce trasmittenti è la linea Drake, non so se l'ha mai sentita, è una linea Drake, diciamo che sono degli apparati americani di vecchia generazione che oggi una linea completa non ti passano dalle 4 alle 5 mila euro. E ci credo. Capito? Adesso non lo so, magari come possono uscire, magari è il nome Drake che ha acquisito valore, o per dire se il valore, diciamo, delle radio di se stesse, cosa ne so. Comunque già, per noi è soltanto schiacciare un mic, farci quattro chiacchierate, tu. Ma magari va anche oltre, l'estate si fanno di ex, eccetera, eccetera, non è che sia solo quello, va. Vabbè, l'estate è già diverso, vedi, l'estate già tutta un'altra cosa, perché l'estate magari chiacchiera un po' di più, ti fai qualche di ex, ti fai qualche collegamento, ti fai qualche scambio di QSL, diciamo è già qualche piccola soddisfazione, qualche piccolo, poi ci siamo detto, però se non hai spazio, quello che conta è lo spazio, ho detto, vedi, io lo stesso, io so per dire, sono limitato, non è che posso, c'ho tutto lì messo assieme, bloccato. Io per dire, adesso se fossi stato in campagna, vabbè, in campagna diciamo che c'ho una tavernetta, c'ho un seminterrato, ecco lì ci sarebbe stato un discorso diverso, diciamo, la passione sarebbe stata diversa. Però delle volte la passione ti limita e forse sarà anche un bene, dai. Appaga. Diciamo che al giorno d'oggi bisogna anche sapersi accontentare anche di quello che si ha. Se uno non può fare, non lo fa, lo fa solo quando può farlo. Vabbè, questo c'è stato un po' di dubbio, è già, almeno per esperienza, mai fare il passo più grande della gamba. Di solito fare il passo più grande della gamba, dalla volta o inciampo e cadi, tutto lì. Va bene. C'è Antonello Ossilandia che stava saldando, vediamo un po' se ha finito di saldare. Antonello. No. Antonello sta ancora saldando, sta. E le prese con la saldatrice. Va bene. Gianni, mi senti? Come te, sì. Gianni? Sì, approva. Allora, così 1-3-1-3-1-2-3. Mi sembra la forza. Sì, ma la radio è sempre la stessa, sì. Sì. Perfetto, guarda in questo momento con questo passaggio e con quest'altro passaggio, se cambia qualcosa. Rifallo. Allora così, 1-2-3-1-2-3, 1-2-3-1-2-3-1-2-3. Ma qui non cambia nulla. Nulla. Tuttodino proprio, non più di tanto. Non più di tanto. Vabbè, qui mi sta segnando 15 watt in tutto. Per regolare qua. Ah, ma c'è un piccolissimo lineare, non ho detto che era sui 25 watt in uscita, e invece qua mi sta segnando 15, se pisco arriva a 20, non di più. Ora. Guarda se cambia così, aspetta guarda. Strano però. Ci sei Gianni? Che ci so. Guarda così cambia qualcosa da una all'altra. Aspetta, vai un po'. Aspetta un secondo, va. Un secondo solo che ti do contro di... che attacco tutto. E vediamo un po'. Eia. Boh, che strano, adesso per dire ho collegato il Galaxy. Galaxy con questo tipo lineare che qui mi sta indicando 6 watt, non è possibile 6 watt, sono strano. Sì, ma quanto è quanto te ne dà? Nel roll, no, io sto dicendo qui fa, dalla scala fa da 0 a 2, da 0 a 150. Adesso in questo momento ho collegato, mi sta dando 6 watt, se provo a aumentare, guarda se cambia qualcosa così. Fatti tutto il passaggio. Allora guarda un po', così 1-2-3-1-2-3-1-2-3 e così 1-2-3-1-2-3-1-2-3. Allora tutto il passaggio a 9.15 secondo volta. 9.15 no. Perfetto, va bene, dai. Più di 20 watt non sale, più di 20 watt non sale, ma neanche più di 20, più di 15, non di più. Allora adesso tu mi dici, quanti watt sta dando l'apparato? Allora, qua mi sta indicando la verità, 2,5 watt, senza il Galaxy in questo momento, sta indicando 2,5. Va da 0, 3, 4, 5, 8, 10, 20, 50, 150 la scala. Adesso questo è quale sto usando, quella 150? Sì, la parte di su, sì, la scala, la parte di su. Scala da 20 usa. Poche parole spiega perché c'è ogni altra materia. Aspetta, c'è l'ideale, no. Adesso qui c'è il lineare inserito, vero Antonio? Ah, in questo momento no, in questo momento non ce l'ho inserito, così è inserito. E da quanto è questo lineare? Aspetta, non lo so, è piccolissimo, non so se lo conosci, la 1230 c'è scritto, Winner, è tutto nero, con le scritte rosse e due interruttori, accendimento, spegnimento, AM, SSB, non so se lo conosci, però io non lo so quanto possa dare questa cosa così. 30 watt. Allora, 30 watt in AM, e qua per me questa roba me ne sta indicando, in questo momento sei collegato, è possibile. Gianni, magari quello della Falco. E sono quelli che sono c'era anche della Zettagile, dava 30 watt, l'avevo vinto io a un'altra che aveva fatto Torino Kawasaki una volta, e l'avevo vinto a Natale, e andava anche bene, andava anche bene. E ma l'unica, Antonè, spendici 50 euro, ti prendi il 747 di un lineare come si deve. E infatti ci stavo pensando, stavo valutando in questi giorni, quello sì. Adesso vediamo dopo le feste, come va la situazione, dai. Nel caso se c'è la possibilità sì, mi prendo un 747, solo che purtroppo ho bisogno anche di un lineare, di un alimentatore, perché ne ho solo uno da 10 ampere, non basta. Beh, quello sì. Bisogna... Per farci una stazione buona ci vuole un alimentatore a 50 ampere, così ci puoi attaccare cose. Io ne ho tre alimentatori, uno da 50, uno da 35 e uno da 10 ampere con il trasformatore, ma li dà tutti completamente di quelli buoni. Ma cosa? Qual è la differenza tra, diciamo, gli alimentatori che abbiamo noi? Io ho questo Elpex, non so se lo conosci, poi scatoloni neri, un interruttore a lampadina rosa, giustamente, sicuramente anche tu qui. Tra questi modelli, quanto può venire a costare, per dire, se lo sai, uno da 30 ampere, giustamente 12 volt, 30 ampere, e che differenza c'è da questi qua a quelli switching? Quale conviene di più secondo te? Allora, i switching sono di nuova generazione, sono... e hanno al posto del trasformatore c'è una scheda, e diciamo che io switching ne ho due, vanno tutti e due bene, uno solo con la 50 ampere mi è arrivato difettoso, ma è la partita che sono tutti difettosi, ma ormai sono il difetto qual è, lo accendo prima e è l'interruttore il difetto. Lo accendo una volta, si accende e poi si spegne, e poi lo riaccendo e dura tutta la sera. E c'è quel difetto lì, l'ho spedito 50 volte, 50 volte non ha tornato così. Ecco, però comunque lo stai utilizzando e non dovrebbe dare più problemi, è molto più compatto, giustamente. Tu, volendo, qualitativamente parlando, qual è il meglio? Qui trasportatore gigante o quel modello lì? Qualitativamente parlando, secondo me sono meglio con trasformatori, sono quelli, questi qui sono, diciamo, quelli più economici di nuova generazione, però non sono, almeno non sono affidabili al 100% come gli altri. Gli altri, per dire, si rovinano i cavi finali fatti con io, questi qui si rovinano e si butti via. Ho capito, perfetto. E uno da 30 ampere, quanto potrebbe venire a costare? Nuovo, giustamente. 30 ampere, intorno ai 90 euro. Di meno già. Meno? Allora, guarda, c'è lo switching. Lo switching io ce l'ho già più di un anno. Lo switching c'ha 25 ampere, poi 30 ampere di picco. Attualmente, se non sbaglio, mi sembra che costi 60 euro. Vabbè, più che stai disposizione, quando ti viene. Sì, vabbè, adesso bisogna vedere. C'è quello che te le fa pagare, le spese di spedizione, c'è quello che non te le fa pagare. Le 16 euro al prezzo. Ma noi sta parlando di switching, non di quelli a trasformatori che vecchi che usiamo noi. Switching, sto parlando anche di switching. Io c'ho il Nisei che non è switching, ma è lo stesso di quella, di quei modelli lì. È marcato Nisei che ha 35 ampere, l'ho pagato 90 euro. Ma è con gli strumenti grandi, è grande anche, diciamo, abbastanza grande. Come strumentazione c'è gli strumenti che sono molto grandi. diciamo che è bello visibile, è una cosa di lusso davvero, vanno molto bene. Dopo di farmi la ricerca, perché giustamente se acquisterò quell'amplificatore lì, devo per forza provare un alimentatore, vedo un po', fanno un giro, anche di seconda mano, fate che funzioni. Aspetta, che ti dico una cosa. Se lo prendi, non prendere questo modello mai, perché sono tutti difettosi, ed è quello che ho anche io, e te lo dico qual è. Non prendere mai il 6056 NFA, perché sono tutti difettosi di partita. Qui stiamo parlando sempre di switching. No, alla fine non prenderò mai uno di qui, ne cercherò uno normale, questi scatoloni neri, col trasformatore, no, switch che non ne prendo. Sì, è Gianni, nel frattempo sto ultimando. Vabbè, piano piano. Io devo fare il regalo per Natale, mi sa che mi comprerò lo sbozzo, guarda un trasformatore. Kappa. Alla Sassari o direttamente su internet? No, su internet a Sassari non c'è nulla, l'ho ordinato da Fusaro una volta, mentre che me lo faceva arrivare, c'è stato 6 mesi e poi mi ha fatto arrivare un cavo. Non mi chiedo più a Sassari. Allora fai meglio da internet, che un'altra cosa. In 3 giorni da internet che arriva, capito? Adesso vabbè, siamo nelle feste, però lascio passare queste feste qua, poi lo ordino domani e così mi arriva intorno a martedì magari, martedì, mercoledì, però arriva in 3 giorni normalmente, se tu vabbè c'è una festa di mezzo, tardano un po', ma gli arrivano lo stesso. E non dà affidabilità ordinarlo qua a Sassari, perché sia la DBC sia la Fusaro, mi dispiace dirlo perché Fusaro lo stimo di più, però ha fatto la stessa cosa, cioè me l'ha ordinato e non è mai arrivato. Io alla fine fai una cosa più giusta, la ordini lì. Sì, l'ordine direttamente da internet e fa la cosa migliore. Io prendo solo lo spunto da internet e non ne metto nemmeno, perché mi conviene più al telefono. Io al telefono gli dico, mi mandi questo domani, ma lo spedisce, sì domani stesso te lo sto spedendo, no, se ce la faccio il pacchetto stasera, domani mattina te lo mando dal corriere, là. E mi conoscono Gianni, capito, mi servono a fare chi anni. Ah, sempre lo stesso negozio. Solo che un po' mi ha deluso questa storia dell'alimentatore. E beh, poi alla fine non te l'hanno mai risolto il problema. Sicuramente era in garanzia. Allora, il problema non è mai stato risolto per il semplice motivo che lo cambiavano, fino a me ne andavano un altro nuovo, aveva lo stesso difetto. Il primo che mi hanno mandato ha scoppiato tutto. Cioè l'ho attaccata la corrente. Partito. E beh, alla fine non ti potevi, diciamo, acquistare un altro modello. Te l'ho detto, mandamene un altro. Ma tu hai preso quello, non ne ho altri modelli, adesso questo per l'altro, qua hanno trovato un bel disquile. E poi guarda, anche se è inferiore come una penna, non me ne frega nulla, però almeno che funzioni. Dice, al momento non ne abbiamo. A mia arrivata, no, ma dice, ti rimando quello lì, un altro nuovo, me l'ha mandato. Poi a Grobbe ha fatto la stessa cosa, quindi ho supposto che non fossi solo io, ho sfigato. Ma fine non hai fatto la prova, sai, a fare qualche dito dall'interno, in modo da vedere se veramente te lo cambiavano. La prova? A volte capita, no, che poi ti rispediscono lo stesso oggetto riparato, a fare qualche piccolo segno di riconoscimento da parte tua, a vedere se veramente te lo davano nuovo oppure lo stesso riparato. Sì, così se si è preso la bella aperta non vale più la garanzia e non te lo riparano più. Non avete in dubbio, ma avete fatto in modo che l'avete totalmente perfetta e non si sarebbero accorti. Stavolta stavano fregando alla fine, per quel motivo lì te lo sto dicendo. Non è arrivato a nuovi, capito? Me ne accorgo io quando sono nuovi. Cioè, vabbè, la nuova anche il mio, e non è che, cioè, quello che è partito, se tu lo vedevi fuori esternamente, era nuovissimo. Come l'ha attaccato la presa? Poi ha avuto anche coraggio di dirmi che sicuramente era la presa dove li attaccava che era difettosa. Ha detto, ma se ne ho altri tre attaccati, vanno tutti bene, com'è possibile? Non solo quelli, c'ho anche apparecchi a 220, attaccati alla presa, c'ho la ciabatta, quindi... E mi ha detto che forse era difettosa quella. Ha detto, guarda, prova a cambiarla anche di presa, l'ho provata a cambiare di presa, così ho detto, ma è la presa difettosa, proviamo, cambiato, niente da fare, la stessa cosa. E allegria, no, no, alla fine conviene trovare questi modelli qua, è sempre tranquillo. Mi sento ombra di dubbio, quelli col trasformatore hanno un'altra... Diciamo, le cose antiche sono sempre le migliori, come tu lo sai, com'è, no? E infatti, già non io c'ho fusagli a casa. Elettronica è così, più c'è elettronica di mezzo, è più digitale, è più all'avanguardia e più ti dà problemi. Come le macchine con le centraline, come i vetri, i lanzacristalli elettrici, che prima era una cordicella, si ammavi la cordicella e la fatto io, come la sfasciassi, quella ce ne voleva. E avanti, delle cose del 500, Alessandro. Me le ricordo già me lo ricordo 500, 450, 327 e quando mai si sfasciava qualcosa o allora a carburatori si apita a iniezione o a carburatore vai carburatore doppio corpo a tromboncino poco camminava con il carburatore a tromboncino la 500 ce l'avevo io, 5 lavata 5 giannini, abbassata dietro, ruote larghe, eccetera eccetera. Anche all'interno era proprio la Giannini fatta per correre perché era di uno che correva a scala piccata. Era fatta, c'era il contagio, tutto quanto dentro, era un bel fatta bene. E niente, con la macchina lì mi si fermava in strada, io mi fermavo. Lo controllavo, lo mettevo a posto e ripartivo. Erano altre macchine già, erano altre macchine. Allora guarda, io la prima macchina che ho avuto, però, ho avuto il 128, poi con la rete durata poco. Poi siccome mi piaceva un po' di estetica, non so se te la ricordi, l'Otti 50 coupé. Quella che aveva dietro i fari rotondi con i due marmittoni all'interno c'aveva tutta la strumentazione rotonda e c'aveva il volante diciamo in legno, te la ricordi? E a voglia che me la ricordo, volante in legno e la rasa e ferro. Cazzo, ma guarda, era una scheggia quella macchina, era una scheggia. Allora, siccome il motore ce l'aveva dietro, davanti era talmente leggero, che cosa avevo preso? Mi sembra che erano due o tre sacchetti di sabbia e li avevo messi giusto per stabilizzarla, perché davanti era troppo leggera. E tutti facevano così, io ho avuto l'Otti 50 che vabbè me l'aveva data il mio suocero. Era nuova, faceva 20.000 km quando me l'ha data. E gli avevo fatto fare una colata di cemento davanti. Cemento perché quando andavi a 120 poi volava. Sì. È una macchina che camminava, io mi ricordo che avevo una scheggia quella macchina lì. 160, 170 quella macchina lì, allora cazzo era micidiale. Quella lì poi mi ricordo che avevo capotato, per fortuna non mi avevo fatto niente, perché sul bagnato diciamo era troppo leggera quella macchina lì, però con il motore diciamo era micidiale. Da lì avevo preso sempre a seconda mano, non so se te la ricordi, il 124 Spider. Lo ricordi quello col tetto in tela? Sì, sì, me lo ricordo. C'era lo spider, c'era lo sport. Ma questo era lo spider. Ma era micidiale, sempre con la strumentazione rotonda, vicino, sotto, vicino allo stereo c'erano tutti i cronometri, acqua, olio, batteria, insomma, io ti parlo degli anni 80, quegli anni lì. Allora, sì, sì, me lo ricordo, addirittura la slot 50 sport ce l'aveva mio cognato. Mio cognato che sarebbe quello che fa la principale a me, quello del baffo. Ah, ho capito. Allora, a quei tempi che andava molto era il Giulietta, poi c'era GT 1300 Junior. Quello sportivo, quello allungato, questa era una bestia, Ho avuto anche quella mio cognato ha avuto la Fulvia HF, ha avuto quella lì, ha avuto l'850 Spider, come prime macchine. Sì, diciamo macchine diciamo di quei tempi lì, tutte macchine che erano trattori come macchine, come carrozzeria lasciavano desiderare, però come motori erano micidiali, tutti i motori logicamente a carburatore. Diciamo quella che aveva il coso, il tappo del serbatoio sopra, dietro, la Spider che ci aveva, l'850 Spider che ci aveva mio cognato, era celeste, me lo ricordo ancora, faceva la curva, dentro faccia sgommando, per farsi vedere, attiva il coso, era Barroso quando era ragazzo. Vabbè, sì, quella era l'850 coupé. Il coupé, no, era una bellissima macchina, addirittura su quella, sull'850 coupé c'avevo la classica che si usava moltissimo, quella classica antenna lunga, mi sembra che era più di 2 metri quell'antenna lì, quella in fibra d'alluminio bianca, non so se te la ricordi. Me la ricordo, molta gente l'aveva camuffata anche per il baracchino, poi giù da dove l'aveva fatta, quella l'aveva usata per il baracchino. Bei tempi quelli lì, cazzo, bei tempi, per carità. Allora, adesso non mi ricordo, mi sembra che la benzina mi sembra quei tempi che era, mi sembra 400, 500 lire al litro, mi sembra. Antone, dimmi tutto, no, ti sto ascoltando mentre sto sistemando la cosa, vai tranquillo. Tu dicevi il drive, ma c'è bene, no, per il discorso delle cose vecchie, anche per dire come le macchine, dalla tecnologia vecchia alla nuova, dalla vecchia alla nuova, come gli apparati per dire, stiamo facendo tutti elettronici, quelli classici che abbiamo noi sono scomparsi. A me piace un po' questo. Mi piacciono gli Smitter, una 12 non digitali, mi piacciono più questi qua. Antonio, come ti sta arrivando di segnale? Controlla a vedere. Qua nel Galaxy 9+20. Cos'è? Ecco il tuo. Sono il? Ho detto un po' rimindue, dando il segnale pure normale. Sì, perfetto, sempre la tua modulazione perfetta, di genere doppio rumbo. Ho fatto una cazzata. Io devo pronunciare il coperchio, del coso, poi ci ha appoggiato di mia adesso, poi si è attaccato, non ci vuole più staccare. Sì, adesso che ho riparato il nuovo. Sì, no. da un attacco, c'è proprio il filtrino sotto, sicuramente si sono attaccati in un modo pazzesco, ma si sono attaccati io. E l'ho fatto nero, mi sta parlando, l'ho fatto, e mi dia lucido, ho preso il lucido e non mi piace, no, sembra uno scampo di vernice. Un attimo signori, io ne approfitto che vi lascio che c'ho la mia passeggiatina quotidiana. Vai, vi saluto, non proseguimento di questo, se non ce la risentiamo domani, buon tutto a vostro piacimento e ce la risentiamo alle prossime. Ci sentiamo, tanti auguri di nuovo. Avanti Antonio. Sì, ciao Rossa, buon proseguimento. Nel caso ci sentiremo tutti domenica mattina, almeno per darci gli auguri. Almeno in quel momento saremo tutti riuniti. Sì, va bene. Ciao Gianni, ciao Antonio, ciao. Ci sentiamo. L'unica mattina l'ha parato, non penso perché io sono invitato fuori, non ci sono forse. Vabbè, anche se sono le 8 del mattino, 8, 8 e mezza. Ah sì, magari sì. E perché per la mia socia fa sui gente dei regali, di cose, mamma mia, vedi un po' che di roba. Devo prendere la fissione lei ogni volta che andiamo, perché si scartano i regali là, capito? Poi devi riportare indietro, non c'è una partita particolare che ci abbiamo. E già è bello, ora quando sei in famiglia, già è sempre bello. La suocera praticamente vuole che riscartiamo tutti lì a casa sua, e ci sono le lettere che ti fanno commuovere, tutta la musica, musica diciamo in sardo della nascita del bambino, è nato su bambino, mette quella musica lì eccetera eccetera. No, è abbastanza credente, dai, mi piacciono molto le tipiche usate natalizie, cosa che mi sa che molte persone l'hanno persa come me. Loro ci tengono, le piace riunirci tutti. Quando era viva mamma faceva la stessa cosa, ci univa tutti quanti. Noi siamo cinque figli e praticamente ci univa tutti quanti a casa. Poi diceva, a volersi a stare un'ora, però stiamo un'ora insieme, ci facciamo gli auguri, poi ognuno fa quello che deve fare. Se volete restare facciamo una tombolata e via. Ecco la scusa tutti insieme, no? Già è bello, voglia. Dimostra il contrario. E poi mi sono reso conto, quando mancano i genitori, Antonio, tutto va a puttana, detto chiaramente, ognuno se ne va conto suo. Sì, qualche volta mia sorella ci invita a Natale, la sera giochiamo a tombola, cosa, ma non è più la stessa cosa, non c'è lo stesso calore, le stesse cose. Beh, giustamente, con la mancanza dei genitori manca tutto, il calore veramente della famiglia completa, alla fine è quello il discorso. Poi mamma invitava quella signora di fronte a casa perché era sola, ci faceva ridere e cose. Era una cannosa quella ricca, voleva giocare a tombola e si faceva certe risate quando vinceva, la faceva divertire un bel perché era anziana, era sola, vedova, c'era i figli tutti sposati, quindi per non lasciarla sola mamma l'invitava ogni anno. E dunque tutti in famiglia, là, quel vicinato, già sono dei bei ricordi alla fine. E lì era praticamente l'unica del palazzo che aveva il televisore quando eravamo piccoli. E cosa faceva? Tipo un cinema, metteva tutte le sedie e quando c'erano i film ci invitava tutti a vederla, accendeva il braciere, me lo ricordo ancora, io ero piccolino, ma me lo ricordo. Accendeva il braciere e si faceva tipo un cinema, tutti quanti che guardavano il televisore, andava tutto rubato. Visto, vai, vedi che sono brutti questi ricordi. Cosa che la gente fa anche adesso, cosa ne pensi? Se, guarda, a me non so come hanno detto una frase che sarebbe stata sbattere la faccia. Quando sono partito fuori mi hanno chiesto questa persona se li comprava un biglietto della lotteria. E l'abbiamo preso. L'abbiamo preso da fuori, da Roma, perché dicono che sono più vincenti quelli lì. Praticamente gliel'abbiamo portato, gliel'abbiamo regalato, lo stavamo regalando, dice no no, io te lo pago, perché se è ricco non ti devo dare manco una lira. E chi era questo? È una persona che mi ha chiesto la cortesia, una donna. Mi ha detto se è ricco, io gli ho detto, l'ha detto a mia moglie, gli ho detto, se fosse a te gli ho detto, ascolta una cosa, dammi il biglietto, così se è ricco me lo prendo tutto io. Visto che non è che ti dice se vinco facciamo metterti duro oppure ti do qualche cosa, mi ha detto non ti devo dare manco la linea, te lo pago perché tu dici se vinco non ti do manco la linea. Che schifo, la verità, no? È una cosa del... Poi specialmente in questi tempi, conta, minimo 20-30 anni fa queste parole da bocca non uscivano e guarda, è veramente uno schifo. E so, guarda, come non è detto, non ci sono rimasto secco. E vabbè, la prossima volta fa una cosa, se te lo chiede direttamente no, non te ne compro, basta, punto. Cioè, così è proprio essere miserabili davvero, oppure di fare la cortesia anche a parlare così, o almeno pensa di non dirlo, invece te lo dico. Sì, perché ormai non c'è più rispetto, adesso va benissimo, forse anche prima c'era, no? Anzi, forse anche prima c'era più rispetto, prima, dai. Sono sempre persone stronte, le hai sempre trovate, però un po' più di rispetto c'era 20 anni fa, adesso proprio no, non si sa più neanche come comportarsi, è arrivato a un certo punto, perché ti condizioni molto anche dal modo di vivere e, no, e non ci pensi se fai bene o male, vai così, distinto senza pensare, così è la gente ormai. Però io mi ricordo che quando ero piccolo, se io facevo qualcosa che non dovevo fare, mi vedevo una vicina di casa, mi sgridava. In quel momento mi facevo la tutrice, l'educatrice, capito? Mi diceva, Gianni, quello non si fa, lo dico a tua madre. Lascia stare subito con la roba da cosa, non racconti di lui non per dire, capito? E io mi dico subito, se lo fai adesso a dire una cosa del genere, ti prendo una parolaccia. Oltre che ti prendono la parolaccia, poi si avvicinano i genitori e ti fanno, a me se permetti lo correggo io a mio figlio, fatti tuoi. E invece prima stava zitti e ti dicevano, vedi che ha ragione quella persona è più grande di te, dicevano, e devi portare rispetto. Adesso queste parole non si usano più. Noi non ti danno più retta ma con i bambini adesso, tutta un'altra cosa. Sono... Marco si sta offendendo, Marcolino si sta offendendo, smetto di parlare per me. Hai visto? 30 anni fa se visto una cosa del genere ha già preso schiaffi. Allora, sì, non si poteva dire là. Io mi ricordo mio padre che una volta ero già grande, siccome ci voleva a tavola a cena tutti quanti insieme, poi se tu dovevi uscire potevi, però a tavola ci voleva tutti insieme perché mi piaceva quando tornava da lavoro riunire tutta la famiglia e volevo avere tutti uniti. Un giorno avevo una ragazzina, mi pare, che ha avuto 18 anni così, e sono entrato invece che alle 8 e mezza quando si cenava, mi pare alle 9, 9 e 5, e mi ha detto guarda che ore sono. E ho detto, le 9. Mi ha dato uno scappellotto e mi ha detto, ricordati una cosa, che qua si arriva alle 8 e mezza, poi se devi uscire lo sai, però alle 8 e mezza vi voglio tutti qua. Era così prima, non ce n'era di cose da rispondere, di fare, no, non esisteva. Le ho preso a la cinghia, se rispondevi male, ui. Io beh tranquillo, sono passato anch'io, cintola, battipanni, scopa, canna, pietre, pompa, nestolo, e dai, quello che trovava in mano partiva senza problemi. Allora mi ricordo una volta che a scuola ho preso una nota, erano in due, mio padre ci aveva la C. mia, mia madre c'aveva col battipanni in vimini, quelli che si usavano prima per battere i materassi. Ce l'è presente, non so se li conosci tutti intrecciati. E io saltando sul letto, sotto con la parte all'altra. E questo quando per non farmi prendere, gli ho messo una sedia in mezzo, per fare stava per cadere, ui, quando mi hanno preso lo sul salito davanti qui. E qua, sono andato a ricordare i vecchi tipi anche a me, alla fine già l'ho vissuta anch'io con la situazione. Sì, il battipanni sì, quelli in vimini, ma mi aveva uno verde in plastica. Ma quello che aveva in vimini, intrecciato, di quelli intrecciati, e poi occupavo via male. Io non so, e i segni nelle gambe, dai, me li ci mi ricordi, Però meno male, vedi i colpi, li abbiamo quelli presi. E gli hanno aiutato, lasciamo perdere, dai, già aiutano, ogni tanto già fanno bene. Servo la brizzata, servo la brizzata, adesso se tu tocchi un figlio subito telefono all'urlo, ti denunciano questo e quell'altro, passi quasi per uno che lo voglia amare, non che li voglia, lo voglia addressare. Lo so, è vero, no, va, per carità. Ma io per fortuna già sono ancora un po' all'antica e sono contento. E per il momento mia figlia già sembra che stia crescendo bene, la sto facendo crescere bene come con le vecchie usanze che hanno usato con me, ma speriamo che le servano un indomani. Ma io non dico di essere molto rigide e cose se non c'è bisogno, ma se c'è bisogno dello scappello aggiungere anche là. Sì, sempre a sedere, mai in faccia per carità, sempre a sedere, se non basta uno o due, però sempre lì. In faccia se può far male. Sì, ad un momento già me ne fai anche voi. Prima già si poteva fare, vai tranquillo, che non se ne mettevano le paranoie che si usa adesso, vai tranquillo. Tu dicevi a un'altra persona, ma fammi a mio piatto, se ti applicato vuol dire che ci voleva. Ah, sì, proprio così, fallo adesso. Adesso subito la denuncia, c'è il telefono azzurro che chiama, che fa, che manda gli assistenti sociali, questo e quell'altro. Purtroppo... Io mi auguro che non ci sia mai bisogno di dare scappellotti e cose, però, perché grazie a Dio io non posso dire nulla dei miei figli sino adesso, perché non si può mai dire mai, ma sino adesso si sono sempre comportati bene sia l'uno che l'altro. Sì, quello sì, giustamente i litigi, guai se mancano, però diciamo per il momento cose gravi non ne hanno ancora combinato. No, i litigi perché si fanno i dispetti, la sorella dice metti perché lui va a giocare in camera della sorella e mette il disordine e poi li lascia tipo così, la sorella giustamente dice se devono avere gli amici miei, le amiche mie, vedo quel disordine, metti a posto, se lui non mette a posto ti prende la PlayStation e la nasconde, dice sin quando metti a posto non te la tolgo, e lui l'unica cosa che lo finisce è quella, se riprende la presta ce lo fa morire. Così soffre, dipendente. Sì, ma che lui sì. Lui è proprio per questi giochi qua ci va matto. Ti piace molto tutta la roba novizia. PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo DS, eccetera, eccetera. Poi adesso non so cosa vuole, quello che praticamente simuli giocare a tennis e se lo vedo nel televisore. La Wii mi pare si chiama. Già ce l'ho presente. Tu mi ho chiesto, quanti anni hanno i tuoi figli? Marco ne ha 10. Ha 10 anni, è perfetto. No, per fortuna... Mia figlia ha fatto la voce, quest'anno ha scelto qualcosa di meno tecnologico, gli piacciono molto le marionette, quelle che si muovono col filo, e gli ho preso quelle, abbastanza carine, fatte a mano, anche un ottimo prezzo. E dunque quest'anno niente videogiochi, sempre le stupidaggini tecnologiche di quest'anno, tecnologiche, gli ho preso le marionette. Lo sai che papà ce ne faceva lui? Le marionette, faceva con il legno e con gli stracci. Poi si metteva, si nascondeva dietro al divano, le faceva muovere, ci faceva le studie con le marionette, le vedevamo come scive, ci faceva proprio lo spettacolo. Esatto, sì, no, dai, c'è dei bei ricordi, la verità. E lì abbiamo fatto un giro, quando era, una settimana fa, e c'era questa persona, questo ragazzo che li costruisce, proprio fatti a mano, piccoline, non sono grandi. Ehi, che belle, mi fa lei, me le compro, me le diceva a Natale, se me le porta, non c'è problema, gliela mando io la lettera. E ha scelto proprio quello, ma sono contento, almeno usa un po' la fantasia. Infatti. C'era Manuela, la grande, che c'era adesso 19 anni, quando era piccola si inventava le voci, faceva le scene con le bambole. Poi era di un ordine, al contrario di Marco, era di un ordine, guarda, lasciava tutto pulito, si pettinava le bambole, le conservava, ma era proprio ordinata, ordinatissima, cosa che non è adesso, che magari torna, butta la roba sul letto, fa, ma prima era molto ordinata, molto molto ordinata. E si inventava le studie, addirittura quando era piccola si aveva inventato Billo e Barigo, che erano due personaggi che lì faceva con le dita, li faceva baciare, eccetera eccetera, no, Billo e Palligo, anzi erano Billo e Palligo, li faceva lì. Poi quando telefonavano le amiche, le compagnette di scuola, quando era un po' più grande, si inventava che aveva un fratello e faceva anche la voce del fratello, perché lui desiderava un fratello. E un giorno a Natale, quando gli abbiamo chiesto cosa voleva Gesù Bambino, gli ha scritto la lettera che non voleva nulla, voleva solo un fratellino. Barracuda, se mi copi. Chi è? Avanti. Morello, Barracuda, buonasera, tutta la ruota, sono Salvatore, rientrando da Sassari. Ciao Salvatore, mi sentito, ma sono di Barracuda. Però tutta fischia. Sono in barra mobile leggera. Barra mobile leggera? Allora sei in moto. In macchina. Ehi, l'altro su buffare, Salvatore. Gianni, mio fratello. Già ho capito, si era lì, ma sta facendo tutto ai dischi. E cos'è? Buffette e fulli. Ah, canto male, quando si muore da ridere è buffato, dunque, se non era male, non ti preoccupare. Tu sei macco, ma macco forcemi. Chi sei su là già? E beh, Salvatore, buono la sua. Ma io oggi ho passato la giornata a lavare la macchina, no, l'ha fatta, ma l'ha fatta bene, e poi gli ho passato la cera. Ho finito alle 7:30, dalle 2 alle 7:30, l'ha fatta dentro, fuori e in più la cera. Bravo, domani piove. Ah, lo stesso modo di parlare di Gianni Dinamici di Chiaramonti, se non ti sembra lui. Ehi, infatti mi stava sembrando lui, però è troppo forte. Poi ho detto domani mi sa che ha messo più, cioè. Oh, speriamo di no. Vieni dal garage la macchina, se no poi magari si batte. Ehi, guarda, con la cera che gli ho messo poco da attaccarci c'è l'acqua, questo è poco ma sicuro. Perché gli ho messo una cera della Mirage fatta apposta, invernale, mezzo de gai non si vuole. Ce l'ho anche io con la cera lì. E io la mia me l'ho fatta tutta lucidare da poco. Ho fatto quello che dovevo fare, ancora quelle scorticate di trasparente, le ho fatte vedere, no? Le ho fatte fare. E adesso di lui salve il nuovo amore. Direttamente te l'ha solamente, ha ascoltato solo il trasparente e basta, senza toccargli il colore. Non lo so cosa ha fatto, non posso dire, no, posso che il colore va di là, perché era anche un po' scolorito il colore, come era uscito un po' scolorito, si era scolorito anche un po' il colore. Perfetto, almeno è ritornata nuova. La tavola è stata a fare l'analisi, l'ho messa in via Mendola, soltanto mi hanno toccato il paraurauto. Allegria? Appena provato, l'ho provato di nuovo al carrozziere, e mentre cosa è successo? Non è andata bene. No, no, la macchina va benissimo, solo che mi hanno toccato davvero. Caspita, dice, ma forse si è fortunato, forse va via questa cosa. Ha preso la spatola, la maggior parte l'ha tutta tolta con la pasta abrasiva. Però ne è avanzato un piccolo intento, piccolo e si vede. E a volte no, come si dice, la sfiga. Salvato, dove ti trovi adesso? Adesso sono sul 31, al video per Sassari Rossi, arrivare nel Caldi 2. Ah, adesso sto uscendo bene, no? Mi già, adesso mi ha fatto che sta vendendo quell'apparato che ha. Lui dice che non gliene frega più niente. Fala, faccia. Qual è il tuo baracchino, il Salvato? La passione Salvatore non ce l'ha mai avuta, secondo me l'ha messa solo perché ce l'ha avuto, vero? Fastidio ti dà in macchina, ti dà fastidio in macchina. Ma non gli conviene prenderselo, se lo tiene dentro qualsiasi cosa, non si sa mai. Io tante volte ho chiamato con la radio per emergenze anche grosse. E quello già è vero, ma io me l'ho staccato dalla macchina, me l'ho messa a casa. Salvato, ti senti? Salvato, è sicuramente ancora in galleria, perché c'è mia figlia che lo vuole salutare. Ah? Ah, saluta Dio Gianni, doppio room, salutalo. Ciao. Ciao, bella. Mi hai sentita da brava che facendo? Sì. Ti faccio salutare da mamma. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Paola. Ciao Marco. Piacere. Sì, è tutto mio. Oh, non so bene a tuo padre. Marco, vuol dire. Già va bene, dai. Mi sembra un po' addormentato tuo figlio. Cos'è, sonno? Era dormito lui. Non è svegliato. Non sono stati a Paola. E allora? Mi sembra che ancora sei incantato. Ma sai cosa fa lui? Si corica vicino a me, si addormenta, poi tocca ogni volta a portarlo nel suo letto. Lo faccio ancora con mia figlia. Sì, e poi rimangono mezzi incoglioniti quando li porti nel letto. Grazie. E ci vedete il Salvatore. Salvato! No, Salvatore è sparito. Stava fischiando l'apparato poco fa, innescando, lo senti? No, la verità lo sentivo basso, però lo innesco, la verità, no? Salvatore! Oh, oh, guarda se cambia con questa già la modulazione. E anche troppo forte. Anche troppo forte? O che cos'è? Questo è l'ala 44. Ah, lo stesso microfono che ho usato poco fa. Il microfono qua rende, ma non una volta in più, no, 100.000 volte. Del Galaxy. Questa è la volta fortissima, ma proprio potentissima. Ah, oppure, vabbè, aspetta, tu mi stai indicando che sto uscendo con 9 watt, a me mi sembra strano, comunque mi stai indicando che fate che sto uscendo con 9 watt. Ovviamente non serve a niente, perché la roba ce l'ho 2 giorni, così mi stai indicando. Ma adesso sto usando la 44, il mio primo apparato, con l'LBB più 4 e basta. Però con la coppiata. Bravo, però, proprio preferisci più questa modulazione che quella del Galaxy. Sai che questa qua è fortissima, quella del Galaxy è chiara, quello che vuoi, ma non è così forte, capito? Questa ti dà una potenza allucinante. Guarda un po', è così cambia qualcosa in questo passaggio o con quest'altro si cambia qualcosa? Copiato già. Ehi, perché volevo abbracciarsi manco per dormire, ui. Ogni tanto ne ho. Allora aspetta, vai, stai tranquillo. Cappagatto. Mi stavi dicendo altro, dimmi. No, scusa, mi senti trascillato, facendo queste troppe. E in questo passaggio sto facendo adesso così, o se cambia così? Ma di radio? Sia di radio che di modulazione. Cazzo, prova. Prova di nuovo il passaggio. Allora, così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Così, invece, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma sembra uguale, dai, non ha cambiato nulla di radio. Poi di segnale non l'ho manco guardato. Va bene, dai, perfetto. Vabbè, così pulito esce, che strano, qui mi sta indicando che sto uscendo con quasi 3 watt adesso, così sta indicando che strano, ma direi che non sono 3, 4 watt. 4 watt e mezzo. No, qui mi indica quasi 3. Sì, ma ci sono gli apparecchi che escono con 3 watt. Va, va. Anche a me sentito. Ciao a Antonello Barracuda, da questa parte Fabrizio Pirigato che ti cordializza. Ian, buonasera, ben sentito. Fabrizio, bene. E mi ho fatto tutta una cosa, cioè il bambino a tutti questi va a vedere un film di Natale, ce n'è letto tardi, tanto domani scuola, niente. Scappava, ha fatto bene, intanto. Ma cosa buttati a fare, racconti. Ogni tanto già fa bene farli vedere questi figli. E a Marco, vabbè, ce l'ho pensato in nomi a rompere l'incantesimo. A portare i doni noi, ragazzi. No, gli hanno detto che non esisteva Babbo Natale. Che non esisteva, che erano i genitori che facevano Babbo Natale. Allora, io mi sono incazzato perché ho detto queste cose le devo dire ai genitori, non dai nomi. Effetti hai ragione, mi sarei incavolato, ma non poco di più. Mio figlio ancora ci crede, 8 anni, e quando deciderò di non fargli credere più, glielo dirò io, quando lo capirà lui, non di certo glielo devono dire i nonni. Beh, anche io l'avevo provato giusto, comunque, lasciamo perdere. Adesso lo sa e lo dice anche i compagnetti, eccetera, eccetera, ma dice l'ho capito che siete voi, cioè, ma non avete i nonni. Che siete voi, però mi avete preso in giro, si è sentito anche preso in giro, capito? E che strano, ma come lei hanno letto? Perché dice che l'ha già grande per credere anche la Babbo Natale. E vabbè, ognuno pensa ai figli suoi, no? Infatti, e vabbè, tante volte i nonni si sostituiscono in cose che non le riguardano, ma per evitare, infatti mi sono detto anche a mia moglie, che hanno fatto male, ci mi diceva vabbè tanto prima o poi vabbè, ma non può sostituirsi a un genitore, no, non lo deve fare il nome, il genitore è il genitore. No, sono perfettamente d'accordo. Vabbè, vabbè. Comunque adesso lo sai, adesso pretende, fa, sa quello che vuole, eccetera, eccetera, quindi se prima potevi magari era una cosa troppo costosa gli potevi dire che Babbo Natale non ce la faceva con i soldi, adesso gli prendevo per forza. Adesso dice la verità, oh, questi sono i soldi di casa, di più non si può spendere, visto che c'è grande adesso, adesso perché non esiste il bambino Natale, le cose funzionano così. Ma è così bello credere a queste cose, a me, io lo scoprirò da solo, non me l'hanno mai detto i vigili tu. Io tutto scoperto da solo, una volta ho trovato mamma che mette per regali e l'ho scoperto, sgamato, ho fatto vedere, si è addormentato. Mia madre andava piano piano, mette per regali, di notte riprendeva sopra l'armadio dove li nascondeva e poi li metteva di notte. Io ho aperto gli occhi, ho fatto finta di dormire, poi ho aperto gli occhi per vedere Babbo Natale. Io mi aspettavo di vedere Babbo Natale, invece ho visto mamma che stava mettendo. E gli ho detto, mamma, pura, con tutti i chili, sei successo. Ho capito, l'ho scoperto così e mi è andato, sono stato tanto deluso. Invece lui è stato deluso proprio dal fatto che, si è sentito preso in giro, non lo so. Perché sono cose che devono dire i genitori, se ne accorgono da solo al momento giusto, capito? Vabbè, prima cominciava a dirmi, ma il mio compagno mi ha detto che Babbo Natale non esiste. Ma cosa stai dicendo? Ma tu credi agli altri? No, no, io credo a voi, però poi alla fine addirittura la gioia è... Sì, ma infatti sono cose che uno, sono i genitori che poi alla fine, quando inizia a fare troppe domande, sì, e gli dice, guarda, eravamo noi per questo motivo, perché è normale, però quelli ti fanno passare anche dal foraggio, capito? Da piccoli è bello credere in queste cose, cioè non... sono incantesimi che rompi così, vabbè. Io ho detto anche a loro, ho detto che hanno fatto male a dirlo. Io ho detto che prima o poi dovrei sapere cos'è, fino a 100 anni ci deve credere. E io ha aggiunto, vabbè, tante volte per non dire, ci metti una persona sempre buona. Vabbè, quello è normale, va. E tu Antonio ci credi ancora a buon Natale? No, io sinceramente non credo più a niente. Tu stai lavorando, Antonio? Sì, qualche giorno appena mi è uscita, adesso in questi giorni dovremo finire, almeno per il periodo natalizio, dai, si tira un respiro di sollievo. E dove stai lavorando? Sì, con le imprese di muratori. Qualche lavoretto così, dai, importante che pagano, Sì, no, per fortuna ho visto che sono comportati, io ho comportati onestamente, questo non devo dire niente. E quindi fra un po' finito, Sì, è così, ma speriamo al prossimo. Speriamo al prossimo anno anche se i miei dubbi. Beh, se mi fosse Babbo Natale, allora sì, una bella letterina gli avrei mandata. Purtroppo non esiste. Ho capito. Vabbè. Speriamo bene, è tutto il problema che si svegli un attimino i diritti, hai capito? Lo so, ma mi dubbi. E a me lo dici, lo so. E vabbè, dai, almeno per quest'anno. Non avete letto nel giornale, così di sfuggita stamattina, che hanno derubato la Caritas a Sassari, gli hanno lasciati a secco, hanno rubato tutti gli alimenti per le persone povere che ci sono a Sassari. Abbiamo sentito da ieri altri giornali. Me ne rendi conto che schifo? Non è una guerra tra poveri. Secondo me è gente povera che voleva appropriarsi di più cose perché non gli bastavano quelli che gli davano sicuramente. Perché, guarda, io per esperienza, noi al Cison davamo i pacchi della roba da mangiare eccetera eccetera, se ti giravi tu davi il pacco, se ti giravi ti fregava anche quello che avevi dietro, se ne scappava, quindi anche tra di loro si fregano uno con l'altro. Ho visto anche gente che magari si toglieva la roba dalla sua busta e la dava per dire a uno di colore eccetera eccetera. Ho visto anche queste cose, però ho visto gente che è disonesta, che magari si prende anche la roba degli altri. Lo so, purtroppo, ma giustamente dici, credo c'è anche fame, anche un po' di burdigia alla fine, e pensi il tempo che mi serve a te, sapendo che anche gli altri hanno bisogno. fare la fila. Io una mattina sono passato lì per questione di lavoro, stavo scendendo lì col furgone e ho visto la fila, non so come, usciva sino alla strada, tutto il marciapiede sino alla strada fuori, uscivano fuori dal marciapiede la fila che c'è. Non me lo posso immaginare, guarda. E anche a Porto Torres li danno questi impasti giovedì, quando ce n'è, perché anche la Caritas adesso ha poca roba, con la crisi che c'è anche loro sono in crisi. Avanti Fabio. Poi Yuri, Canagala. Crisi. Ascolta, salva lì in frasca. Riversa a posto l'antenna, da voi che me l'ha caduta, no? Ho fatto un bel lavoro questa volta, ho messo un paro, più che un paro quelli dei ponteggi, quindi tirato su con un plumo che carrucole per tirare i balon su, i ripoli, c'è un lavoro fatto bene questa volta. Dimmi come ti sembra il segnale. Devo mettere piani. Guarda, Antonè, a te come ti sto arrivando se ti ricordi il mio segnale? Guarda, qui nella 44 sta arrivando 9 più 30, una bella radio di 5. Perché prima più o meno arrivavo così? Ah, sinceramente la modulazione è sempre la stessa, il segnale è leggermente più basso, però la timbrica è sempre la stessa, non è cambiato nulla. Appena più basso arrivavo qua, ma non più di tanto. E più o meno uguale, ho aumentato poco, quindi. Tanto. Quindi cioè, va bene, dai. Ho fatto un bel lavoro questa volta, ho anche modificato l'antenna, eccetera. E quindi adesso può sbattere anche a 200 km all'ora, al limite spetta l'antenna in due, ma non il palo non si muove, dai. Guarda tu già. Sì, quasi 9.30, ma con pelino 9.30. E prima? Più o meno uguale, forse qualcosa in più, la 9.25 mi pare. Qualcosina in più ce l'ha. Addirittura, fa piacere, perché poi alla fine mi sa tanto che tutti i limiti mi sa tanto che l'antenna è abbassata alla fine un pochettino, forse un metrino più giù, ma se la vedi è alta, probabilmente è come montato il tutto, un bel palo, ho rifatto anche lo steno centrale, capito? Vabbè. Fatto un buon lavoro, e i radiali laterali non ti ha fatto nulla. No, perché come ha picchiato il vento, così è successo praticamente, era tirantata al centro e tirantata su, in punta. Un elemento di questi pali che prendi da Fusano, no, i classici, era che poi addirittura per averli tutti belli grossi li avevo innestati con degli spinotti costruiti al torneo. Così è successo. Cioè, uno di questi praticamente, una bassa, poi li chiamo io, uno di questi praticamente era più fino degli altri, sicuramente difettoso, e quindi così è successo, tra il vento l'ha piegato in due parti, quindi l'ha fatto come una U e l'antenna si è piegata, ha sbattuto sull'altra antenna della televisione e si è piegato un pochettino gli steli, però i radiali non gli è successo niente, quindi ho cambiato tutto il palo, ho messo un palo che se si piega il palo butta giù il turrino, le staffe, ma il palo già non si piega, per dire, ma c'è attiranti da tutte le parti. E poi quindi era solo lo stelo centrale è il problema di quell'antenna, che cioè i radiali che sono perfetti, molto meglio secondo me della Mantova, perché sono abitato, cioè tutta la carica bellissima, fatta bene. L'unico problema era lo stilo centrale, che lo stilo centrale praticamente era molto fino, tipo la Ringo, tra un elemento e l'altro molto gioco, invece ci ho trovato gli stessi elementi però molto più grossi e che andavano a innestare perfettamente, proprio sembravano nati così, quindi li ho tutti portati a casa, col torno, ho fatto un po' di modifiche fuori, cioè, e quindi ho messo uno stilo molto più grosso, e adesso è bella robusta, capito, non me la paragoni a prima. Io invece l'ho contattato nel senso di preparo telescopico, però ho pensato prima al gioco, l'ho comprato 8 metri, 3 metri li ho lasciati dentro e gli altri li ho sollevati. In più gli ho messo la punta di collo di ferro, praticamente il tubo d'acqua, e 12 tirate, già vanno bene. Quelli vanno bene. Poi quel palio nuovo, io ho visto come si sono comportati, vabbè, era difettoso, sicuramente era troppo figo, ma alla fine solo per montare quello che monto io è pazzesco, cioè una pazzia, perché sono pesanti, non lo so. Comunque, è una volta finito, è micidiale, però non lo so, troppo lavoro. Sembra un traliccio alla fine. Riprendi tu e fai girare che faccio uno squillo che mi hanno chiamato. Vabbè, comunque io non ho montato il tubo d'acqua solo per il semplice motivo che ho messo di quelle staffe e di quella tassetto e quindi non mi fidavo molto avanti il tubo di pesana. In più il tubo io ho lasciato un 5 cm sollevato da terra perché se devono fare lavori sul tetto, il catramarlo, farlo, hanno lo spazio, se tocca togliere l'antenna quando fanno quei lavori. Allora, per evitare questo, l'ho lasciato un 5-6 cm di altezza dal terrato. E ok, bravo, comunque, la mia ha visto 20 allucinanti. Guarda che qua batte un bel maestrale, l'ho preso proprio in pieno. Alberto, scusa, mi fa preparare una sigaretta. Ma fai, fumavo. Devo gettare, porca miseria. Scusa se ti sto assillando Gianni oggi, ma quando diciamo uno modula, questo mi sta segnando 1,1 di stazionarie, durante la modulazione lo smitter scende giù in basso, da 1 arriva a 0, non dovrebbe essere il contrario? Uno va della strada perché ne ragazzi. Questo mi sta indicando così. Sì, mentre modulo questo smitter mi sta indicando che scende giù. Adesso quando lo spengo la ciabatta rimane fermo, non si muove. È quasi uno, è pochissimo. Allora, per quello sicuramente tu gli hai dato troppa potenza in entrata lineare. Allora c'è il power nel gas. Sì, sì. Abbassa il power o la potenza, se hai potenza nell'altra parete, non so quale stai usando, forse stai usando l'altro perché stai arrivando un bel forte. Abbassa la potenza e niente, con la potenza più bassa dovrebbe avere il positivo. E quello è il problema, che la 44 non è con la torre di potenza. Sì, ma proprio così, scende giù. Invece col Galaxy non me lo fa, con la 44 me lo dà questo piccolo accorgimento. Non dipende però, Sì, a volte sale, a volte scende. Fatta 4 con questi watt esce, l'apparato solo. Ma qui mi dica che, guarda, aspetta, te lo dico subito, qui mi indica quasi 3 watt, quasi. Quindi non riscaldo nemmeno molta potenza, strana. Sì, invece col gas non me lo fa. Aspetta un attimo, faccio un'altra prova. Ora. Adesso guarda, in questo momento sto usando, invece veramente sono troppo potente così. Adesso in questo momento sto usando la 68. Invece la 68 mi sta dando, fischiando 5 watt, 4 watt e mezzo. Pagato. E l'ho trovato. E cambia da una parte all'altra la modulazione? Ah, la voce tua è sempre uguale, però la modulazione è sempre potente. Non cambia niente, diciamo, dal 44 al 68 non cambia nulla. Aspetta un attimo. Che forse il primo è ancora più potente di questo. È strano, boh. Adesso faccio così. Adesso invece con questo, così in questo momento sto uscendo con 15 watt. Così mi stai indicando. Sempre buono. E non cambia niente alla fine, dai, diciamo la la modulazione è sempre la stessa pur cambiando apparato, tra uno e l'altro non c'è nessuna differenza. No, non ne ho fatto più di tanto, dai, vanno bene tutti e due. È il Galaxy che forse c'è un po' di differenza. Però rimane leggermente più bassa come modulazione. Forse perché bisogna aprire la legge. Sicuramente. Ecco, guarda un po' adesso, eh. Adesso invece con l'ANA 68S vedi, installando 1,1 di stazionari e quando modulo, diciamo, l'indicatore sale sulla destra. Invece l'ANA 44 me lo fa all'inverso. Fare deve abbassare infatti il baracchino dall'interno, devi sapere qual è il trim, non toccarti se non lo sai. E abbassare la speranza dei trappi. Se devi realizzare sempre con quella roba, li abbassi in lato e via. Ah no, la verità non lo so usare. Io non ho mai toccato, sempre originale. Sempre originale l'apparato. Paga. Poi vado a lasciarmi la sigaretta. Sì. Ciao, io vi saluto, dai, al limite faccio una decina di minuti, un po' di corsia greca, un po' di spazzolata veloce e poi me ne vado a nanna, dai. Paga, facciamo Fabio, ci sentiamo, buonanotte. Notte, se non ci sentiamo auguroni per domani, ma magari già ci sentiamo, dai. Vedete, devi contraccambiare anche famiglia, se poi ci sentiamo ce li facciamo. Ciao Fabio, guarda il posto. Ciao Fratri, buon proseguimento di serata, ci sentiamo alle prossime. Ok, ciao ciao e auguroni. E alle prossime. Tornello? Sono 2 minuti. No, mi vuoi entrare adesso, invece della segreta in cucina. Ah, perché lì non fumi? Dove sei in camera da letto adesso? È alla mia stanza, Me ne fumo, fatto un po' la finestra. E butto fuori il fumo. Ma lo vedo, mi senti, è tremendo l'odore della sigaretta, adesso che io non fumo più, lo sai come lo sento? Prima non me ne accorgevo. Adesso se qualcuno fuma in casa mi chiede, chi è venuto a fumare? Vieni quella di fronte, è venuto, E diglielo che non si può fumare qua, porca miseria, non mi piace più lo vedo del fumo. Ma guarda che anch'io me ne accorgo se entra qualcuno a casa e ha fumato, Lo sento benissimo. Sì, ma io adesso mi dà più fastidio, mi faccio solito. Sì, quello sì. Quello è vero, ma questo veramente ti dà fastidio il fumo degli altri o del tuo, che cosa strana. Comunque, no, già le sto cercando di, la verità, di smettere, mi sto fumando questo schifo. Il tabacco te lo prepari tu. Ma sinceramente quanto l'ho pagato questo? 3 euro e mi dura 4-5 giorni, 20 grammi di tabacco. È un 4-5 giorni 3 euro. Invece con le sigarette ne spendevo 4,20 euro al giorno, una volta basta. Con questo sto fumando molto di meno. E se di meno tutto va meglio. Sì, quello pienamente d'accordo. Io un giorno ho deciso di smettere, ho smesso, di colpo non ne ho più toccato. Quindi ogni tanto se capita un tiro così, ma proprio raramente. Una curiosità già, ma quando tu molli rimane un attimo di incidente l'apparato, poi si sente diciamo il disturbo leggero leggero della 27, lo fa anche a te? Quando mollo sente il bip. No, rimane muto l'apparato, non si sente niente da parte mia. Ah, quando vuoi. No, io sento subito il bip. Aspetta, quel rene ce l'hai proprio a zero, è zitto il tuo apparato. No, si sente. Ecco, adesso è tornato. L'ha fatto per 4 volte, non sentiva nulla. Guarda lo squarcio. È a zero. Lo spinge per la parte di giù, si spegne così. Ma lo prendi tu moduli, hai fatto diversi passaggi, no? Ma che strano. Tu moduli, poi moduli, dopo il bip, l'indicatore scende giù e rimane proprio muto. E dopo poco lo riprendi di nuovo a fare quel rumore di sottofondo. Ma qua non l'ho fatto. Probabilmente è diventato il bip anche. Dici? Sì, perché... Il bip deve avere un trimmer che lo fa, un... che lo fa, capito, può attaccare, lo vedete. Ah, e non fate la prima volta che mi capita, non avrà fatto qualche collegamento sbagliato qua, per quel motivo te l'ho chiesto. Non penso adesso che sta colpa a segnare. Quello già è vero. Sì, no, già. Già sta fungendo tutto, va, la Puglia. Mi ha fatto proprio i collegamenti, sì, ti sistemati, Dio mio. Non mi devo riportare la vittoria adesso. No, no, no, usiamo il 78, no, no, la Galaxy va benissimo. No, poi ho scoperto anche, purtroppo, per la minoranza, che durante, diciamo, le prove che facevano, si divertivano a dirmi che non sta riuscendo bene, mi hanno messo le paranoie. Io mi hanno fatto smontare anche il microfono in strada. Sono fermati in macchina, mi sono smontato il microfono perché ci stavo uscendo male. Quando ce l'avevo aperto mi hanno detto che stavo scherzando. Poi quando cerca di concentrare le cose per dire ti attivano così tutto il giorno, guarda, talmente ti vengono le paranoie e guarda, comincia a sclerare. Ti prendo al volo. Ma l'unico trucco sai qual è, Antone? Metterti un altro apparato in ascolto, senza antenna, ci attacchi le cuffie all'apparato senza antenna e ti ascolti come esci, così almeno sai come stai uscendo veramente. Io quello è vero, infatti dopo ci provo, poi provo, vedo un po'. No, perché non c'è il macchina, me l'ho messo a casa, il tema me l'ho messo a casa, non mi interessa in macchina. Poi questo sarà il costo di mio fratello, che è acquistato, poi mai usato, il 78 l'ha preso lì, dice, a un autogrill, e poi il Galaxy basta, sopra le macchine, baracchinetti, boh, niente di particolare, però tutto sistemato, va ordinato, ce l'ho anche ora. Io vabbè. Leggere prima gli altri. La verità, proprio per sentirmi completo, avrei preferito un altro apparato, anche vecchiotto, anche un vecchio apparato, con le bande laterali. E io sono a posto. Cosa vuoi fare le bande laterali che non le usi mai? Ui. Chi lo dice? Oh, se sei nelle Galaxy quest'estate già, sono usato abbastanza, ho parlato con uno di Roma pure, sono dei giorni che parlavo sempre con questo, si collegava con uno dalla Germania, in quelle, adesso non mi ricordo in quale mezz'era, e l'ho preso, quello che abitava in Germania era sempre romano, lavorava lì, e in banda laterale abbiamo fatto diverse chiacchierate, quest'estate, adesso mi ricordo se era luglio o agosto. Parlato con la Turchia, con l'Olanda, insomma, già sono andato bene. Non è ballato la lei, ballava male, oppure canali alti. A me piacciono molto le bande laterali, già la mattina, fino alle 4:30, 5, là, quando ancora c'è un po' di propagazione, sono sempre lì passo a passo, già becchi qualcuno spagnolo, qualche italiano. Quello sì, no, già uso sempre nel Galaxy. Fai bene. Diciamo che è una cosa che devi fare con manualità e quindi non è che ti piace più far quello. Sì, quello è vero, bisogna avere, non bisogna trattare giustamente, non si può entrare comunque. Ma no, nella manualità si può entrare, chiaramente non si può entrare. So di no, correggimi se sbaglio, quando vai in USB, RCB e poi scendi di D e di E, non puoi entrare più lì. Non puoi salire di canale, non puoi scendere, ma se tu vuoi guardare la tele su 40 canali normali puoi farlo, visto e considerato che ci sono gli apparati omologati che gli fanno con le bande laterali, 40 canali. Sì, in quel caso sì, se vado in USB e USB, lasciando diciamo l'interruttore nella dove c'è scritto band in C, dove sto modulando, dove si modula adesso in questo istante, lì sì, ma poi quando inizia a scendere, diciamo, già non dovresti più modulare. Esatto, io per vado lì in USB canali bassi. Capito. Va bene, quanto lei, io ti saluto perché mi sto per addormentare, là, mi sto ponendo la biocco brutta. E visto comunque che a Roma l'agnello che me lo discorso lo stanno vendendo 7,90 invece di 10 euro. La carne d'agnello, ma detto non ci ho fatto caso, Mi hanno letto già per il giornale, magari sono gli 10 soldi che vi vendono, perché ho un'amica che lavora a Milano, un deposito di carni, e dice che gli vanno gli anni di sardi e loro li vendono di meno di quello che li vendono qua. Che combo, che schifo, che allegria. Io, cioè li danno meno a loro che a noi che siamo del posto, capito? Lo so, sempre l'incontrario delle situazioni, qua lasciamo perdere. Cioè che quest'anno né maiale né agnello. Una bella patata riposta al forno, oppure delle... come volevamo fare, aspetta, non le crepe, le crespelle farcite, un secondo, boh, infatti così un pacco di gamberoni, boh, e siamo a posto. Noi per Natale ci abbiamo gamberoni, non abbiamo preso carne quest'anno, perché poi stiamo 3 giorni mangiando agnello, ce ne esce dagli occhi, non li digerisci perché è pesante, mamma mia. A me ne hanno una porcetta mondiale, dico la verità, non mi attirano così tanto. No, vabbè, giustamente almeno c'è sui gusti. La verità, sì, anche io l'agnello ci metto molto a digerire, invece il porcetto no, la verità. Al forno è la morte sua. Però visto che sono i gamberoni quest'anno, siamo gli ultimi prezzi, un L2, L3, non è il massimo, compro per L1, comunque. Sono i buoni prezzi, quando ho preso 2 pacchi, che stai prendendo 14 euro a buio, in 3, le fai al forno, in padella, vieni vinde la tattu. Infatti se sono buoni, diciamo vanno bene, e a buio, a me già mi piace, io li faccio un po' piccantucci, di modo che si senta bene il sapore. E allora se io cosa faccio? Li metto dalla notte, aglio, prezzemolo, peperoncino e un pochettino di sale li metto. Poi il giorno dopo li cucino. Non so quanto sono saporiti quando li cucino. Ecco, ma giustamente quando li fai riposare ci metti anche l'olio d'oliva. Li fai in padella o al forno? Li faccio in padella con l'aglio, prezzemolo, peperoncino, i pomodorini tagliati a pezzi, quelli piccolini, e basta, è una cosa semplice, così sono buonissimi. Esattamente, ma senza aggiunta di olio, lasci fare la loro acqua e cucinano lì così direttamente. No, l'olio glielo metto, da quando li metto a macerare la notte, in modo che maceri bene e si prenda bene il sapore, capito? Io li uso lo stesso olio che metto, che li metto per macerare, mi lascio così e poi mi aggiungo i pomodorini e basta. Ah, perfetto, no, allora mi prendo come riferimento la tua ricetta. No, di regola mia moglie li fa con la birra o con il vino bianco, come li facciamo? Il vino bianco glielo puoi anche aggiungere, appena appena il vino bianco lo pernaccio glielo puoi mettere, ma non assai. Quello no, li fa buoni con la birra mia moglie. La birra è buona come il vino, io anche il coniglio faccio con la birra. Ah, vedi, così non l'ho mai mangiato, Non l'ho mai mangiato, che è un bel buono. Con la birra, facendo con la birra il coniglio va benissimo. Ci credi a proposito di coniglio che sono minimo buoni buoni, 15 anni che non mangio un coniglio? Ti piace? Sì, è una via di mezzo, l'ho mangiato da mamma, io quando ho preparato a mamma, sì, l'ho mangiato, ma non sono andato mai nato, la verità. E questo tante volte vedevo, mi è sporto, però non... la verità, no, però sempre pancetta, la solita carne di maiale. Pure io ripeto, sono anni, che non ne mangio. Ma le carni bianche fanno bene, Antonio. Le carni bianche sono meglio di quelle rosse, che sono troppo grasse. Sì, quello sì, ma... per il coniglio sinceramente preferisco un bel pollo al forno. Anche io, non è che ci vada tanto nemmeno io per il coniglio, però è un po' stopposo la carne, la verità. Ma fatto con le soffritto di cipolle, poi messo il vino, fatto cucinare col vino o con la birra, io faccio così. È buono, la cacciatore. Sì, per carità, come sì. No, ripeto, sono anni e comunque ce va bene ugualmente. No, diciamo, ultimamente stiamo mangiando anche poca carne a casa. E ti dico che stiamo veramente bene. Ha sempre problemi di gestione. Per esempio, molte volte mi è capitato, sai, la sera, in più da questa parte mi capita che non so, la sera mi mangio un appetito, 2 fettine impanate per dire, o 2 o 3 pancette, o una fetta di capocollo la notte, il normale mi ha dato sempre mal di testa. Come mai? Ti giuro, non lo so. Ogni volta che mangio la carne la sera, l'ho sperimentato, non le mangio, cosa so, per 2 settimane, mangio tutto al di fuori della carne, del pesce, facciamo molto minestrone, frutti e verdure, insalata, a manetta, qualche capretta di tonno, così. La maggior parte frutta e verdura, mangio benissimo la mattina, senza problemi. Invece quando mangio carne la notte, mi alzo con mal di testa e mi dimenticavo di una cosa, mi alzo anche con gli occhiali e la faccia leggermente gonfia. Ogni volta che mangio la carne la sera, non lo so il perché. È un sintomo di allergia, non sai? Allergia? Beh, non... Se vedi che la mangio prima, non la ripranzo. Sì, sto bene, mi sento un po' pesante, la verità, qualsiasi tipo di carne, mi sento pesante, mi accorgo che ci metto molto a digerirla, però quando la mangio la notte mi lascio perfetto l'indomani. Poi al di fuori della carne, mangio di tutto al di fuori della carne, tutte e due cereali, ti giuro, sto benissimo, non mi ha mai un problema. Ma la frutta mi gusta, però non mi fa questo punto qua, no, io... La notte solitamente mi mangio l'insalata, anche una caffrese, mangio leggero, là. A meno che sono con amici che vanno a mangiare la pizza, allora sì, però solitamente mangio leggero perché mi piace tenermi leggero la notte, se no poi perché ho preso questa cattiva digestione tutto il giorno di 90. Sì, sì, è vero, no, c'è poco da fare, la carne... di avere il stomaco a quanto pare, ma ragazzo la vita non avevo mai problemi, adesso boh, sa cos'è cambiato, comunque va bene lo stesso, tutte verdure, i gumi già, penso che sia la cosa migliore alla fine, dai, lui dice anche Veronesi. Raga, no, tutte verdure è risaputo che fanno bene, è che c'è la necessità nel suo corpo di molta verdura, molta frutta. Guarda, un mese e mezzo fa, così per caso, l'ho fatta a fatta col televisore e sono capitato a Rai 3 e c'era Gheo Nengheo e hanno fatto vedere questo popolo che campava dalle 120 alle 125 anni e loro mangiavano solamente frutta e verdura, la carne era una cosa rarissima e durante l'inverno, comunque una zona molto fredda, cosa facevano? Facevano germogliare di semi di mais, di ceci, di lenticchie, li facevano germogliare, dopo 5 giorni germogliano e loro si alimentavano con i germogli tutto il periodo invernale e questi campavano dalle 120 alle 125 anni. Carne a dire poco era niente. Mio padre è morto a 96 anni, avevano la fattoria, mangiavano solo roba loro e basta. I conigli che avevano erano la battuta la madre, le galline lo stesso, il latte che le mestiamo loro, i formaggi lo stesso, quindi hanno sempre mangiato roba genuina. E vedi, sei andato a 97 anni, così hai detto? 96. Hai visto? È molto importante l'alimentazione, c'è poco da fare, devi stare veramente attento a quello che acquisti, per carità, guarda. Non hai visto tutto quello che ha sequestrato la finanza, tutta la roba guasta che stava lavorando nel commercio, pesce mezzo partito, legumi, tutto scaduto, roba del genere, in questo grande capannone che c'era in Italia, non mi ricordo dove, però li hanno sgamati e li hanno trovato pesce di quello già partito là, che non serve più, mettendolo in commercio per Natale e sarebbero finite tutte le tavole degli italiani questa roba qua. Una cosa fresca di stampa? Non è tanto del giornale stasera. Ah, no, non l'ho seguito per niente la verità del telegiornale. Andiamo bene. Lo camuffano con qualche colorante, con qualche aromatizzante, tu mangi tranquillo, buono buono, nel frattempo una velenata ogni giorno, altro che 96 anni arrivi, se si continua così. Il capannone dove conservavano questa roba, pieno di topi, di questa roba qua, igiene scarso, a mille, eccetera, eccetera. Per fortuna non l'hanno beccata questa roba, quindi tagli di roba. Andiamo bene, però veramente hanno fatto, sempre di più il natalizio, trovano, diciamo, queste piccole, tra virgolette, imperfezioni. Hai notato, durante l'anno sembra che vada tutto a posto. Ma l'anno, già le trovano anche durante l'anno, Antonio. Più di una volta mi hanno beccati, anche da cinesi che hanno negozi qua, se li avevano beccati di questa roba scaduta, ne fatta. Hanno beccato anche quello che dava i mangimi agli animali, che li cambiava la vacca col pennarello, li metteva 2 anni, che scadeva 2 anni dopo, perché era già scaduto. Anche se sono animali, perché gli devi dare la roba, tu la compri, la paghi, e poi ti può far morire l'animale. Quando giustamente da questione di interesse, poi alla fine, quello che succede a noi non gliene frega assolutamente niente. E andiamo bene. Come una volta questa dritta, per dire, non so, la persona che raccontate del latte, che quando guardi nel fondo, nei brick, ci sono 5 numeri, dall'1 fino al 5, che sono tutte, se sono tutti 5 numeri, il latte ha avuto solamente un passaggio, grazie, un solo passaggio. Invece se non manca per il numero 1, il latte, quel po' che è avanzato, viene ribollito di nuovo, gli avanzi, no, giustamente, e così via. Più numeri mancano, più il latte viene trattato, più di 3, 4, si arriverà a 5 volte. Quindi una volta che prende il latte e conferma, vedete che ci sono tutti i numeri, e tra di questo dovrebbe essere, diciamo, un solo passaggio, ha avuto il latte, la di lavorazione, ha avuto un solo passaggio il latte. Tu lo sapevi questa scena? La sapevo. Io ho un parente che praticamente è maresciallo di finanza, non mi ha dato tutte queste dritte qua, anche di detersivi, di roba del genere, un foglietto dove c'era scritto tutta questa roba qua, me l'ha fatto avere, perché loro fanno i controlli, cioè, facevano perché lui avesse pensione, ma quando non è per i servizi ancora. Sì, sì, è uscito anche su internet, l'hanno fatto vedere. Ma io penso che sia il latte scaduto che lo ribolliscono, lo ritirano dove è scaduto e poi lo ribolliscono. Ma io spero già, perché dovete già pericoloso in sé, come hai fatto tu il paragone. Cioè, così mi hanno spiegato, se da 1 fino al 5 il latte viene, sì, ritirato dai fattori, portato, sterilizzato, alte temperature, confezionato. Poi, insomma, se ne avanza, va rimischiato con latte, di nuovo da sterilizzare, dunque questo che avanza rimischiano, questo che avanza viene ribollito per la seconda volta, per la terza volta, quarta e quinta. Alla fine cosa stai bevendo? Un prodotto che ha perso tutte le sue sostanze, dunque cioè, non stai più comprando latte al 100%. Tutte le cose, se dovessi guardare, non mangiassi più niente, gli additivi che li mettono, i conservanti e questo e quell'altro. Io il prosciutto per dirlo che lo sempre sul capo di fosfati, ma magari ci sono altre aggiunte di disossidanti, di queste cose qua. E infatti, se andiamo bene, meglio frutta e verdure e legumi, dai. Armonia un pochino, dovete essere tranquillo, sperando che non ne abbiano le piante, non ne abbiano dato troppe medicine per andare avanti fino a fino arrivare alla confezione. E io coltivo i chimici per farle crescere prima. È quello, tu ne coltivati avendo la possibilità di avere un terreno, se la coltivi tu almeno sai quello che mangi, ma mi sa che anche quei tempi sono finiti, non c'è più la voglia di stare lì, lo per lavorare in campagna come si faceva prima, e già parti la terra, ormai è tutto pronto, vai al supermercato, è tutta portata di mano. Dunque altro che campagna, Pure che sarà stata tagliata per i mandroni, sarà stata già tagliata, prendono, se la condiscono e fate il gioco. Ma chissà cosa babbaria come tirarà là. Quello, e poi stranamente, non è possibile così insalata all'interno di una busta chiusa, senza aria, dura giorni, tu già tagliata, come la tagli già la frutta e la verdura, diciamo, sì, anche la frutta, sì, anche la frutta e la verdura, per dire, durano così tanto, con una busta chiusa, così ho visto anche delle mele tagliate, direi che quando tu prendi una mela, la tagli e a picchi, dopo una decina di minuti inizia già a diventare nera, lì invece confezionate, attenzione, non sotto vuoto, confezionate, quindi normalmente rimangono sempre perfette, chissà cosa ci mettono. Qualche antiossidante sicuramente. Antiossidanti, se sono quelli naturali non dovrebbero fare niente, bisogna vedere che altri ossidanti mettono, mi rimasto sempre qualcosa di chimico, arrivato a un certo punto. Beh, normalmente sì. Ma bene, stavo dicendo, il mio principale, che praticamente c'era la campagna e c'era questo qui che vendeva la verdura, diceva che era di quella ecologica, eccetera eccetera, anche se l'ho visto lui comprando qualcosa di avere con cibi chimici. Immaginati tu, ecologica, biologica, sì, così dicono, biologica, soltanto di timbro, ma no, la verità, conviene sempre se trovi, conosci qualche produttore, che sai benissimo che lui se la coltiva, la cosa non mette niente, conviene lì, alla fine, bene o male, guarda, la zona di Alghero, San Sebada e quelle parti lì, la maggior parte sono tutti coltivatori, se non ne conosci di gente, la maggior parte delle persone lì la coltivano ancora la terra. Come andare lì fine settimana, fa una bella spesuccia, che poi spendi molto di meno dal negozio, quando lo prendi dal produttore, al consumatore, e fai almeno quello che mangi. Si stanno alzando anche loro, Se tu vai verso Platamona, ci sono quei contadini che vendono la roba, c'è una casupola dove vendono la roba che coltiva. Prima si comprava bene, adesso si sono alzati anche loro. Beh, giustamente, i trasporti pagano molto di più, diciamo, i sementi, tutto legato, tutta la ruota, porca miseria. Ma mi contano un aumentato di 5-10 centesimi, non di più. Lì praticamente te la tagliano anche davanti, dal campo. Ci sono le donne che tagliano e loro che la raccolgono, la portano la frutta e verdura. Ma tu vedi questi tagli belli freschi dei cavoli, dei cavoli, dei cavoli. Se ti piacciono i cavoli, vai lì perché sono buonissimi e grandi. Sì, infatti, come ne sempre, guarda, veramente conoscere qualcuno va direttamente lì fine settimana, a voglia, almeno da... Direi che dovete dormire qua un po' il cuore tranquillo, sa almeno quello che mangi, cioè, c'è poco da fare. Poi in paese la verità non si usa più andare in campagna, sono tutte abbandonate, non, poi in paese è morto la verità, non c'è più niente. Ma almeno in quelle parti lì, dove sei un po' più lontano dalla città, vedi ancora queste cose stanno andando avanti. La gente va anche avanti, diciamo, campa, diciamo, con il loro terreno. Poi ieri se te mi stavo affittando articolato per fare quei pannelli fotovoltaici che convengono così, e affittano, li vendono, si fanno di dire. Allora, sono un bel contrattino, per un bel po' di annetti, sei con le spalle coperte, puoi stare benissimo a casa senza fare niente, che hai i soldi in tasca, e sinceramente chi è che non lo farebbe? Allora, si è trasportato di nulla, lui ma il vero lavoratore, altrimenti. Sta due giorni a casa, sta tre giorni, poi dopo la settimana comincia già a puntare la cosa. Io lo so quando sono in ferie, è così. Mi faccio la prima settimana in ferie, mi va anche bene, la seconda già comincia a duplicare, nel senso che poi non sai più cosa fare, devi fare, ti senti sballato, c'è della rabbia, c'è di questo, non sai cosa fare, meno che sia d'estate. Ah, me ne vado a pescare, un'altra cosa la faccio, ma d'inverno cosa fai? D'inverno che c'è sempre brutto tempo, perché a pescare si potrebbe andare lo stesso d'inverno, ma se c'è brutto tempo come fai? E chi è abituato a lavorare non le piace stare senza fare nulla? Sì, quello te ne metto d'accordo, che poi alla fine sei talmente abituato a muoverti, quando rimani per un po' di giorni cominci già a stregare, quello è vero. Però chi è che alla fine piace lavorare? Non è bello stare a casa, alla tua famiglia, avendo solo in casa senza fare niente. Altro che avrei detto che un po' tutti l'avrebbero preferito, anche la maggior parte, perché no? E c'è stare lì a fare lo schiavo tutta una vita e poi se sei impegnato in tasca, non sei mai ripagato, non avrai mai niente. E allora alla fine ci pensi due volte quando capitano queste occasioni, che hai un terreno abbastanza grande, un'ottima posizione, e ti fanno una proposta, tra virgolette, dei pannelli solari, di qualche altra cosa, e vedi che ogni mese intentano i soldi, perché no? Affanculo e cerchi di campare il meglio possibile, e te la godi di più la vita, secondo me. Giustamente, sempre avendo la fortuna, di avere un terreno è nel punto giusto, perché no? Antonio, ti saluto, ti stavo salutando da poco fa e qui ci siamo di nuovo rimessi a parlare. Ti saluto anche se domani mi devo alzare presto che devo andare al lavoro anche domani. Meno male è finita la guerra del lavoro, nel senso che in questo periodo qua ti fanno a pizzi. Vabbè, ci sentiamo Antonio, auguroni in famiglia anche se non ti sento domani e tante cose belle, passatevela bene, che vi porti pace, serenità e amore, ci sentiamo Antonio, e anche lavoro soprattutto. Io ti ringrazio già, molto gentile. Se l'Antonio è sugli auguri a te, a tutta la tua famiglia, e nel caso se ci sentiamo perché non domani, anche domenica mattina, fate già andato certo, sempre io, dunque se ci sia anche domenica mattina, o questa mezza, no, ora, se ci sia sugli auguri, il gioco è fatto, dai, va benissimo, ti auguro buonanotte e buon lavoro per domani. Ciao, ciao Antonio. Ciao, buonanotte.